È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Ma che musica, che musica mi hai messo oggi? Non so chi è. Chi è? Un famoso pianista, chi è? Sarà Leonard Bernstein. Ma no, no, secondo me no, no. Però. Che è successo? Che succede? Un errore già di pronuncia. Leonard Bernstein. Leonard. Ma sei proprio ignorante. Basta, cartellino rosso. Cartellino rosso. Ignorante. Ma lo sai chi è al piano? Il presidente di Mediaset. Fedele Confalonieri, buonasera. Benvenuto alla Zanzara. Buonasera, grazie di avermi invitato. Di avermi sequestrato più sì, è il solito sequestro che facciamo. Il famoso sequestro dei manager, no? C'è stato anche in Francia, del resto. Giusto, ma erano della Telecom, quindi la concorrenza. La notizia è questa: oggi abbiamo sequestrato il presidente di Mediaset, l'abbiamo costretto a venire qui alla Zanzara, giusto? A Bedrò. Così Sabelli e Fioretti non si arrabbiano. No, caro Sabelli Fioretti, perché ti devi arrabbiare? È la concorrenza, è il mercato. È il mercato, normale, poi non sei in onda. Dunque, quando non sei in onda, lasci liberi i tuoi ospiti preferiti, tra cui il presidente di Mediaset. Vi ringrazio. Senta, presidente, ma com'è che suona il piano così bene? Da quanti anni? Beh, è una cosa risaputa, non è una cosa nuova, diciamo. Quando ero bambino. Da quando era bambino? Capito? Questa è la rapsodia in blu, no? Non hai mai suonato? Cos'è no, questa? No, ma ignoranza bestiale, questo penso. Io me ne vado. No, cosa pazzesca. Non abbiamo ancora parlato di tutto il resto. No, cos'è questo? Scusi, io sono fermo a Fabri Fibra. Non dire questo nulla. È Chopin. Ah, è Chopin. Per chi suona il piano è come Dio in terra. Sì, no, chiedo scusa. Ma stai zitto, che è meglio, no? Ah, perché tu lo sapevi invece. No, io non lo sapevo, infatti stavo zitto. Quando uno non sa, deve stare zitto. Ed è che gioventù abbiamo. Bene, 800024, questa è la Zanzara in diretta da Vedrò, da Enrico Letta. È la seconda volta che lei viene da Enrico Letta, eh? Noi ogni volta che ci vediamo la troviamo sempre con Letta. Come mai? Beh, insomma, cioè, non sono così cattivi. Sono molto amico, molto amico dello zio. Molto amico dello zio. E quindi, di riflesso anche del nipote. Quindi resta tutto in famiglia. Solo per questo. Dunque, non sono così cattivi questi del Partito Democratico. No, sto parlando seriamente. Lasciamo stare il Partito Democratico, parliamo di Vedrò. Vedrò, parliamo di questa organizzazione, di questi incontri di giovani che sono poi bipartisan, che affrontano, anche se vogliamo con un po' di velleitarismo ma in senso nobile, i grandi temi dell'esistenza quasi del mondo, di come si deve governare, amministrare, gestire tutto, dal caos, la musica, la cultura, le imprese, le infrastrutture, la pubblica amministrazione. Però organizzano quelli del Partito Democratico. Guardi che all'origine di tutto questo mi hanno detto c'era anche Alfano. All'origine. Sì, sì, questo think tank che tiene insieme. È una cosa un po' trasversale. Io ho visto qui anche delle belle signore. Le vede anche lei, del Popolo della Libertà, oltre che del PD. Quindi, e poi fa piacere vedere i giovani che si interessano di queste cose, insomma, e che finalmente si incontrano non scimmiottando quelli più anziani e insultandosi o criticandosi per principio. Ecco, qui invece trovi quel piacere della discussione positiva per risolvere, per affrontare dei problemi e risolvere. Senta, presidente, ma lei oggi ha parlato anche di alcune cose che riguardano l'attualità, no? Tipo, poi ne parliamo dopo di questo qua che dici, ne parliamo dopo? Ne parliamo dopo delle... Sì, ma dopo quando? Dopo quando? Perché no, abbiamo un'oretta, fra un'oretta. Abbiamo solo sei ore di palinsesto. Abbiamo cinque minuti. Ha cambiato il palinsesto di radio. Allora, Berlusconi non è partito, voleva abbassare le tasse, adesso siamo in una situazione in cui pare che la pressione fiscale sia aumentata. Questa è una delusione anche per lei. Vabbè, ma il mondo è cambiato, ragazzi, è colpa di Berlusconi. Su. Vabbè, però... Su, Zanzara, dai. Abbassiamo le tasse, adesso le tasse sono le tasse, ma se non ce la fa. Oppure se devi pagare perché il mondo è cambiato, perché tutto in crisi, uno deve adeguarsi, e la politica non è che va per punti fissi e inamovibili. Oppure lei era rimasto un po' affascinato all'epoca 94, meno tasse, eccetera. La rivoluzione liberale. La rivoluzione liberale. Adesso cosa è rimasto di quella roba lì? È rimasto quello che si può, quello che possiamo permetterci. Poco. No, quello che possiamo permetterci, la politica è un giorno per giorno affrontare i problemi che ci sono, se c'è un debito così, se c'è la speculazione che è diventata globale, insomma, non sono io, chiamate Tremonti o gente già del suo calibro per discutere di queste cose, io posso parlare semplicemente di cose di Mozart, molto... di Mozart. Una volta lei fece un paragone tra Mozart e Berlusconi, famosissimo paragone, oggi ne ha fatto un altro, cioè? Mozart era quello che pizzicava il sedere alle signore, Era un genio che era ogni un genio tanto, che ogni sì, tanto sì. Eccetera. Oggi ha fatto un altro paragone da ponte? No, mi ha chiesto se dovesse essere nel mondo della musica, Berlusconi dove lo metteresti? Sì. Era una cosa scherzosa. Lorenzo da Ponte, sappiamo che è stato il librettista di Mozart e ha scritto la famosa trilogia che è fatta delle nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Io ho detto Berlusconi poteva scrivere Don Giovanni e Così fan tutte, insomma, mi sembra una cosa carina, insomma, affettuosa. Ma le feste? Molto rispettosa anche direi. No? Assolutamente. Beh, no, ma, persona così di figuriamoci se lei parla male di Berlusconi. No, jamais de la vie. Come? Jamais de la vie. Jamais de, lui, jamais de la vie. Ah, no? Jamais de la vie. Vedi, ma non sai neanche il francese, ma non sapete niente, cioè non sai niente, scusa. No, bisogna rimandarvi a scuola, ragazzi. Sì, sì, bisogna rimandarci a scuola tutti. Senta, insomma, l'IVA la alziamo o no? Diamo due o tre consigli così, proprio in questo ma rush non finale. Sono in grado di così, dare un consiglio. Beh, come no, lei. Ma no, in queste cose presidente qui, di me, l'IVA si può alzare o no? È difficile. Io non l'alzerei se fossi il responsabile. Poi è chiaro che devono fare i conti con quello che c'è, con quello che si divide, con quello che dobbiamo pagare in Italia, all'estero, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembra che sia un elemento inflazionistico e mi sembra che sia anche un elemento che insomma fa aumentare i prezzi e quindi fa diminuire i consumi, secondo me. Certo. Però la guerra come la guerra, se questi sono quello, quindi io me ne guardo bene di sollevare critiche a quello che fanno quelli che se ne intendono. E questo famoso o che dovrebbero intendersi. O che dovrebbero. Che dovrebbero. Perché andate subito a prendere la zanzarina? Perché, con quello facciamo. O che dovrebbero. Ma ragazzi, in quel dovrebbero c'è tutto però. No, no che c'è. No, vabbè, cioè, che dovrebbero. Ci sono piccola nuance, tanto per dirla. Nuance. Ci sono dei competenti e degli incompetenti, come ovunque, in qualsiasi, no? Sì, c'è anche chi fa televisione, radio e non è capace abusivamente di fare. Insomma. Come noi abusivamente. No, io non ho detto che voi siate né abusivi né incapaci. Secondo me l'amore di Dio alludeva a qualcos'altro, a qualcun altro forse. Senta, però lei lo sa che ho cercato di trovare qualche sua dichiarazione sulla famosa sentenza dei 560 milioni e lei si è sempre non ha detto mai nulla. Mai una come parola. L'ha vissuta questa cosa qua? Lei? Come no. Una sorta di estorsione, rapina, come una io di fronte a una cosa del genere ho dei conati di, e non dico neanche la parola. Conati di, addirittura. Di fronte a una sentenza come questa? Quindi basta. No, questa roba qui non voglio parlare. È già una notizia. No, non voglio parlare assolutamente. Addirittura conati, com'è questa reazione così? Niente, basta. Niente, basta, non si può fare una... non si può fare, non voglio dire niente, non perché... Ecco, basta. È già un titolo, fine. No, però Marina Berlusconi... Niente, Marina Berlusconi ha preso delle posizioni che io condivido in pieno. Cioè, anche quando dice un attacco alle nostre aziende vogliono cancellare le nostre aziende. Basta. Siamo a casa nostra. Io sono l'interlocutore. Voi fate le domande, io non vi do le risposte. No, vabbè, certo, lei dice che su questo non vuole rispondere, non vogliamo insistere. Perché ho soltanto una reazione fisiologica di quel tipo. Beh, addirittura. Punto. Vabbè. È già molto questo. Vabbè, no, volevo capire se era vissuta come estorsione, rapina, come una sentenza. È Lucy Guita in milanese, te lo dico in milanese. Lo sa, è di Roma. È di Roma. Lo sa, no, presidente. Lo so, a Milano. È Lucy Guita, vuol dire lui continua. Lui insiste. Lo so, ormai 12 anni di Milano, qualcosa ho imparato. So, ma poi ha lavorato anche con noi, insomma. E beh, che c'entra. Quindi lì si parla milanese. Captazio che hai capito? Ha lavorato anche con noi. Allora, no, ma Bossi. Non c'era nessuna allusione di quel tipo. Ha lavorato con noi, ma dunque no, non può fare domande. Bossi. Liberale il presidente. Bossi è passato. Poi ama le persone che lo mettono in difficoltà, che cercano di metterlo in difficoltà. Non ama i. Mi piace il contraddittorio. Non ama i quelli che liscicano il pelo. Almeno secondo anche me, perché sennò si è noioso. Perché vuoi parlare di Bossi? Perché parliamo di Montezemolo in politica. Come lo vede? Un altro imprenditore che sceglie. Guardi, io sempre per parlare milanese, sì. Io gli darei un consiglio. Sì. Ma io voglio bene a Luca, è un amico, sì. Gli direi stacca tua. Stai a casa tua, questo è facile. Insomma. State a casa, statin, come si dice a Napoletano? No, perché, guardi, io però, siccome dicevo questa stessa cosa al cavaliere Orson, 18 anni. Quindi, dice la stessa cosa a Montezemolo. Mi sono sbagliato allora, magari mi sbaglio anche adesso. Lei lo voterebbe? Ma però, se c'è il cavaliere, io voto il cavaliere. Ma... e voto il partito sempre, che sarà il partito del cavaliere quando il cavaliere sarà. Però la politica è una cosa così, così dura, così anche sfibrante. Così io non vedo arrivare da una carriera come è quella di un imprenditore, di un grande manager, eccetera. Però, ripeto, è un consiglio affettuoso. Ma è unfit o no? Cioè sarebbe adatto a governare? Ha conflitti di interesse. Ma lei legge l'Economist. No, ma perché adesso l'unfit è vero, ormai è diventato il marchio dell'economia. Cioè sarebbe in grado di guidare l'Italia? Ce lo vede in politica, come personaggio, io come non capacità? Voglio dare giudizi di questo tipo, io gli suggerirei soltanto di stare alla larga dalla politica. Però... però mi sembra che ormai su equisque facciamo anche quello che hanno studiato, su equisque fortune est faber, ci traduca un po', traduca no traduca. Andate a scuola, io no, sono classico. Non è che ci siamo fatti noi, ognuno è della propria fortuna, ma c'è un pubblico che ascolta, Presidente, non mi sia snob, nota del redattore NDR, nota di redazione, ma non è mica il giornale questo qua, la radio, ognuno è artefice della propria fortuna. Vedi che Parenzo le sa, c'è un classico di Padova, amico mio. Allora, boss, comunque, ma lei lo vede, ultima cosa su Montezemolo. Come persona, quello che dice, quello che propone, le sembrano cose ragionevoli o no? Oggi quando tu leggi le osservazioni sulla finanziaria, su quel che avviene, condividi, è tutto ragionevole, perché cosa vuoi? Dicono, hanno tutti degli uffici studi, hanno tutte anche delle esperienze, sì, che sono apprezzabili. Cioè dice cose anche apprezzabili. Sì, dice cose apprezzabili, ma la difficoltà in questo paese è come farle le cose. E poi farle concretamente. Perché uno dice, bisogna diminuire le tasse. Ma certo. Poi però i soldi come le fai? Poi mettiamo l'imposta sulle grandi fortune o le piccole fortune, eccetera. Sì, poi bisogna trovare i calciatori che le paghino, i manager che le paghino, dice, insomma, oggi vediamo che c'è lo sciopero dei calciatori, c'è lo sciopero. Ecco, però non ha promesso, da questo punto di vista, Berlusconi non è uno che promette sempre troppo, è un po' un suo difetto questo qua. Promette mari e monti. No, non è che promette, vorrebbe promette. Fare. Promette che se, dopo, però, se c'è una crisi, poi un'altra crisi, poi che si capovolge. Lui è un po' esagerato con le promesse. Getta Presidente. Sempre il cuore un po' troppo oltre l'ostacolo. Troppe promesse, su. Ma che troppe promesse? Lo dice lei. Secondo lei, nota di redazione, secondo me. Però voglio dire, stava parlando di Bossi. No, ma perché Antonio Martino, adesso tiriamo su Bossi, però Antonio Martino, ma basta questo Martino, è uno dei fondatori di Forza Italia, ha fatto delle critiche durissime. Martino è una persona straordinaria, è un economista straordinario, però sarebbe meglio di Tremonti, forse lì, no? Non mi faccia dire cose che io apprezzo Tremonti, quindi non mi faccia andare fuori dal seminato. Martino, però, siccome ha una testa ben organizzata e ha un background fatto di essere presidente del Mont Pelerin, per cui con Friedman, quindi grande scuola liberale. Quindi grande scuola liberale, è chiaro che dica certe cose, le sostenga. Mi sembra un po' emarginato. È rimasto solo lui. Emarginato, non lo so, non credo che sia poi così emarginato. E Bossi, che vuoi? Non parla. No, perché Bossi bisogna fargli gli auguri. Wow. Intanto che se stacca. Ha avuto una frattura. È caduto dal letto. Ma che sarà mai? Se capitasse a lei. È una frattura, vabbè, d'accordo. No, per carità, però gli auguri facciamoli. Facciamo gli auguri a Bossi. Che è un grande personaggio. Che è un grande politico, che ha un talento politico. Scusi, ma fa Rutti, dico Rutti no, ma no, ultimamente si esprime molto da bar. Ma la Lega è sempre stata un po' rampante. Pernacchie, insulti, quello è un nano, quell'altro è uno stronzo, Casini, così. Casini è uno stronzo. Casini. Così Bossi. Io sono un ammiratore di Bossi, nel bene e nel male. Cioè, prima parlavamo dei pizzicotti a quella parte del corpo fatte da un genio che è Berlusconi, che è Mozart barra Berlusconi. Barra un accidente, barra ce lo mettete voi, e quindi ci possono essere delle cadute anche, punto, basta. Bossi, auguri. Però Bossi, ma Bossi è stato, diciamo, un grande finito. Aspetta. Finito il traffico tempo, poi torniamo. La Zanzara. non è mai. 883 sono questi? Fabri Fibra? Ma che 883? No, so. È il presidente di Mediaset. Ah, scusa, no, sono il piano. Gli 883, Fibra, è un'ignoranza. La cultura popolare, la mia. Una cosa pazzesca. Senta, ma la 7, la 7 e Sky si muovono, un mercato... giusto, bene. Mediaset che fa? Mediaset è fermo. Come Mediaset che fa? Ma facciamo... Una domanda, domanda semplice, semplice. Facciamo un'ira di Dio di canali digitali, più le nostre tre normali. Facciamo, abbiamo tutto. Abbiamo l'informazione, la formazione... Non è scontento dunque dell'anno scorso, di questi anni? No, le preoccupazioni riguardano in generale insomma, c'è la crisi, la famosa sentenza di cui prima, ma lasci stare quella quella è un po' di preoccupazione sull'investimento, quella, no? Lasci stare quella. Abbiamo già definito, abbiamo già detto che non voglio allora, volevo sapere se c'erano ripercussioni. Beh, insomma, è chiaro che se tu hai l'azionista di riferimento che ha un salasso di questo tipo, è chiaro che ha delle politiche, ha delle revisioni in testa per le politiche di investimento che deve fare. Però lasciamo a parte quello. I problemi sono i problemi legati al mondo, sono i problemi legati al mercato di qualsiasi genere, e quindi questo è quanto. Senta, ma lei uno come Minzolini lo prenderebbe a Mediaset? Minzolini stava venendo, me lo stava portando Mentana. Stava portando Mentana. Beh, questa è la rivelazione clamorosa. Mentana stava proponendoci Minzolini quando Minzolini era a Stampa, è vero. Ma come cosa? Come vice direttore, no? Come redattore, all'epoca. Non mi ricordo come, ma voleva assumere. Nell'ultima fase della direzione del TG5, negli ultimi anni? O quando era già Matrix, Mentana? No, quando era ancora al TG5. Ah, ancora al TG5. Sì, non fategli... sorprese. Sì, forse. No, non mi ricordo. No, falsi sorprese. Ma noi siamo ragazzotti. È una notizia di oggi che riguarda 10 anni fa. Sì, forse. No, per carità, ma oggi lo prenderebbe. Rebus sic stantibus. Così stando così le cose. No, diciamo per lo, lo prenderebbe. Oggi lo prenderebbe a media. Ma come Minzolini sta bene già là. Beh, sta bene lì. Sì. Se lo tengono con la carta di credito. No, mi raccomando, presidente, con la carta di credito aziendale di Mediaset. È un eccellente professionista, sta di là. Poi non è che possiamo avere tre direttori sullo stesso del giornale. Ma ne basta uno, le dici? Basta uno. Per Mediaset basta un direttore. Un telegiornale per TG4, un telegiornale per TG5. Uno studio aperto. Non lo vedrebbe bene adesso, a TG4, forse. Adesso poi abbiamo il... in novembre, Leo News, canale, quindi, ma Fede se ne va o resta direttore del TG4? Fede è lì ed è ben apprezzato, come sempre fa le sue audience, fa il suo mestiere, ed è uno dei grandi giornalisti, ha una sua età, fino a poi lascerà questo TG4. Vabbè, ma io ho una, insomma, io sono un po' più giovane di Fede, ma non poi così tanto. No, perché ma mica la vogliamo pensionare, per carità, quando si parla poi insomma una volta però si era parlato, no? Che usciva di una certa età, li mettevano al Senato e erano i senatori, erano ascoltati. Cioè lei spera che se vada. No, ma non il Senato. No, ora c'è la moglie. Ah, lei dice al Senato in generale. Io dico, i senatori erano i consiglieri, erano quelli che. Insomma, nel villaggio, non globale, ma il villaggio di Obelix, di Asterix, si mettevano lì, magari con la pozione magica, ma e poi davano i consigli ai giovani. No? Cioè lei lo vede così, il futuro di Fede, il futuro di Fede lo vede così. No, il futuro mio. Il villaggio di Asterix. Il futuro mio. Una cosa meravigliosa, un'immagine meravigliosa questa. Nel villaggio di Obelix a fare le pozioni Emilio Fede. Dove ci sono io, ragazzi, non vedete come stravolgete. No, per carità. Santoro? Basta. Adesso fa una rete sua, no? No. Non va mica... È libero, le do la notizia, è ancora libero. Non lo prenderebbe più, ormai non è più tempo. Di chi parlate, scusi? Di Santoro, Michele Santoro. Ah, Michele Santoro. Mi ero perso. Signor Santoro, non lo riprenderebbe signor più. Signor Michele Santoro. È libero, è ancora libero. Lascialo libero, insomma. Cioè, non è più... Ma no, abbiamo già dato. Abbiamo già dato con noi, abbiamo fatto dei bei programmi. Moby Dick, grandi numeri, No, poi Santoro... Io ovviamente su Santoro che fa puntate, le come si chiamano lì, le bunghe bunghe, le rubi, quello è il Santoro che cancello dalla mia memoria. Però il Santoro che è sul ponte di Belgrado con i bombardamenti e che fa del giornalismo di prima linea, chapeau sempre. Ma lei ha sempre detto che Santoro è numero uno da questo punto di vista, no? No, ma anche come coraggio, come tutto. Poi ognuno di noi ha le sue parabole. Io gli auguro di fare un bel programma, vedo che sta andando col suo omonimo, no? col mio, così dicono, dicono. Però fino a quando non c'è il pezzino di carta firmato, come lei sa bene, Presidente. Beh, io non so se ci sia. Ma può funzionare una TV tutta costruita a immagine e somiglianza di Michele Santoro? Secondo me. Santoro deve essere un pezzo di una televisione. Perché, insomma, se mangiamo caviale tutti i giorni. Pasta al burro ci manca un po'. Poi dopo conati ne abbiamo anche, anche lì, anche per quella cosa lì. Senta, pure la parola De Benedetti le fa venire un conato uguale? Cancelliamo, no, cancelliamo pure questo. Cancelliamo pure anche questo, però le fa venire un po' di. Cancelliamo. Pisapia? Pisapia. Ecco, nella sua, il sindaco della sua città. No, però devo dire, Confrani è uno di quelli che non ha mai demonizzato durante la campagna elettorale Pisapia. Anzi, ha detto non è che prepara un golpe, mi ricordo una volta. Però adesso speriamo che faccia bene, io sono primo milanese. Bilancio? No, cosa vuole fargli il bilancio? Che ne so, è appena partito. Tasse. No, lasciamolo lavorare, dai. Lasciamolo lavorare. Non condanniamolo già, non giudichiamolo. Non si può, dai. Anche voi quante puntate avete fatto con ascolti scarsi? Beh, tantissime, pochissime. Allora. Lasciali lavorare. Senta, anche nelle piazze, no? Ragazzino, lasciami lavorare, no? Sì. C'era il saltimbanco. Il dopo Berlusconi è già iniziato in politica? Ma dopo Berlusconi ha fatto una mossa straordinaria, io trovo, nominare Alfano, ha spiazzato tutti quanti perché ha fatto vedere che il largo ai giovani lui ce l'ha e lo attua, ce l'ha in testa e lo attua, sì. Perché Alfano è un quarantenne e quindi il futuro è questo qui, il futuro è di un partito che lui ha fondato e al quale auguriamo lunga vita. Poi, ma chi vede come successore di Berlusconi? Per esempio, ci sono tre nomi, no? Formigoni, Alfano, appunto, no, Tremonti. Successore, ma a me lo successore, chiedo. Candidato. Quando Berlusconi deciderà? Quando Berlusconi deciderà? Chissà quando. Quando deciderà Berlusconi di andare via? Magari anche alla fine della. Ma insomma, Berlusconi ha sempre detto che vuole finire il lavoro. C'ha un anno e mezzo per finire il lavoro, poi non si ricandiderà sicuramente. Poi che se ne occupano gli altri, che se ne occupino. Poi vediamo, poi dipende anche da quello che succede. Però è molto difficile che si ricandidi. Ma nella sua testa c'è ovviamente di... C'è il Quirinale. Quirinale lui ha già il suo candidato a Gianni Letta, io credo che sarebbe un gran presidente della Repubblica Gianni Letta, perché così con Enrico Letta... si potrebbe costruire una bella famiglia all'italiana, cose all'italiana. No, stiamo parlando di tra Formigoni e Alfano, chi preferisce lei? Cioè, Formigoni lo vede come leader nazionale o è troppo radicato in un territorio? Non sono in grado di rispondere su Formigoni. Mi avvalgo della facoltà di rispondere. Ecco, è meglio non è che non sia in grado. Mi avvalgo della facoltà di rispondere, è più significativo. Però se dovesse scegliere tra i due, abbiamo perché minuti. Guarda sempre l'orologio? Guarda sempre l'orologio. Oggi guarda l'orologio. Un attimo solo. Che c'è qualcos'altro che vuoi chiedere? Su Bossi non abbiamo detto niente. Come non abbiamo detto? Abbiamo fatto gli auguri. Ma gli auguri, eccetera. Perché troppo tutte queste parolacce? Dica, meno gesti. Io un consiglio che lo conosce. Io un consiglio di sobrietà. Guardi che di minimo di qualche sobrietà. Volta la parolaccia significa realismo, significa verità, autenticità. Tante volte ci si nasconde dietro la parola forbita, dietro il ragionamento bizantino per non dire magari niente o per dire qualche cosa che vogliamo che resti oscura e che non arrivi direttamente al cittadino. Ma non ha perso un po' quello per smalto per cui quando iniziale. Uno dice casino uno stronzo e dice meglio dirgli stronzo. Questo non bisogna, no, adesso, ma non mi faccia l'esempio, io sono amico anche di Casini. Casini non lo è. Brunetta un nano, basta. Presidente, è una grande tecnica questa. Ogni volta che fa, oggi, basta. Questo basta. Perché Brunetta nano pure è stato brutto. Questo non è bello. Però lui ce l'è scusato anche, mi pare. Va bene. Insomma. Però ha perso un po' quello smalto iniziale che le piaceva uomo ruspante, di rivoluzionario del nord. Ma quando c'è un'evoluzione. È passato anche dalla... lei ha perso dello smalto da quando era un ragazzotto di 20 anni o no? E anche insomma, lei. Adesso, sì, sì ognuno... avete qualche ruga, siete anche un po' segnatini, ragazzi. Sì, certo, non siete mica più i ragazzotti così da zanzara del Parini di una volta. Siete due professionisti, siete che avete una routine tutti i giorni, fate la vostra cosa, basta. Grazie. Ma Marina Berlusconi come la vede in politica? È possibile una cosa del genere? Non andrà mai in politica. Non ci pensa neanche. Basta. Grazie Presidente. Grazie Presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Noi ci sentiamo tra poco dopo il giornale radio. Il giornale radio è importante. E a questa volta me la paghi cara, io Eccoci qui, caro Parenzo, di ritorno dopo questa intervista a Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. Tante notizie sono uscite da questa siamo intervista. Sempre qui a Bedrò, abbiamo altri ospiti, molti. Aspettiamo le vostre telefonate, solito numero 800 24 00 24, però prima, come al solito, sentiamo quello che ci offre il TG3 di questa sera, lanciato sempre, presentato dalla... tanto c'è qualcuno che dà fastidio qui accanto a me, poi sì, fra poco ve lo presenterò. Beh, lanciato il TG3 come al solito dalla signorina Sabina Began. Sentiamo. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinger. Dal vertice di Arcore le correzioni alla manovra, via la supertassa ma non aumenta l'IVA, tagli ridotti ai comuni, intervento sulle pensioni. Protesta dei sindaci a Milano contro i tagli agli enti locali, dall'incontro con il ministro Maroni nessuna risposta certa e la mobilitazione continua. L'opposizione presenta i suoi emendamenti, casini, misure solo per fare cassa, il veto leghista blocca le riforme strutturali. Frena la crescita mondiale, in Italia va peggio del previsto e l'allarme del Fondo Monetario della BCE che avvertono governi siano credibili. Indagato Claudio Scajola, l'accusa finanziamento illecito ai partiti in relazione all'acquisto della casa al Colosseo, l'ex ministro dice sono sereno. Gli insorti preparano l'assalto all'ultima roccaforte di Gheddafi, il Raisi potrebbe nascondersi nella sua città natale, emergenza umanitaria a Tripoli. All'udienza preliminare per l'omicidio di Sara Scazzi, mossa sorpresa dei legali di Sabrina, chiesto lo spostamento del processo, deciderà la Cassazione. Sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di quelle stufanti di là, mille topi tutti per te, le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te, e tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Vai che è la tua specialità. Cococò, cucurucurù, cucurucurù, cacà. Questa è la frase chiave. Cucurucurù, cacà. Un giornalista che era serio una volta. Una volta. Stai parlando di te? No. Io sono qui. Chi è sta voce? Poi tanto entra. Adesso poi voce? Te lo presento. Chi è? Un giornalista che era serio e veniva da. Esperienze nelle TV locali, Tele Lombardia, eccetera, eccetera, e finito a parlare, anzi a cantare chi co di Pippo Franco sulla radio di Confindustria. Perché questo bisogna sempre dirlo. Pippo Franco, amico di Cilipoti, questo va sempre ricordato. 800 24 00 24, Filippo Facci, buonasera. Buonasera, buonasera. E il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, mestiere piuttosto oscuro, complicatissimo. Un dicastero chiave. La signora Laura Ravetto, buonasera. Come buonasera. Sta? Cosa hai in mano? Un prodotto, guarda, che difende in modo immediato da i moschitos comuni. No, ma che fa? Ma l'Auda, sta spruzzando. E ogni cosa che dichiarerete, che diciamo non è in linea. Ma va messo addosso, perché non va spruzzato negli occhi. Una cosa che io intossica. Io la spruzzo addosso. È una cosa pazzesca. È malmostosissima questa. Che puzza. È malmostoso. Scaiola, che non ho capito. È indagato. Tu sei un garantista. Stai indagato, lascia perdere. Ah no, perché mi è arrivata una sua lettera l'altro giorno. Cosa diceva? C'era scritto? Cosa c'era scritto? Era una cosa privata. Vabbè, allora perché ce lo dici? Era una cosa privata, quindi ve la dico subito. Allora dicevo che... il contenuto no, di protestava per il contenuto di un articolo mio, sì, dove in sostanza gli dicevo, ma insomma... Non hai chiarito ancora la vicenda della casa, chi ha pagato e chi non ha pagato. Sì, gli ho detto che alla fine non aveva chiarito un accidente, che... e che soprattutto non era legittimato a organizzare grandi dibattiti sul futuro del centrodestra, volendo sostanzialmente rifare solamente la Democrazia Cristiana. Niente, vabbè. Io l'ho buttata via perché... L'hai stracciata la lettera? No, non è che conservo tutte le lettere. L'ho letta, ne ho preso atto. Ne hai preso atto, vabbè. Sì. Scambio di lettere, Facci Scajola. Però qui è il primo lancio di... su Dagospia leggo... il fantasma di Facci alla 7. Ah, me l'hanno detto prima per telefono, perché io non riesco a connettermi. L'hanno evocato per tutta l'estate come terza gamba del tavolino traballante. Terza gamba non è bello, Che da quest'autunno, assieme a Nunzio e Porro, doveva reggere il peso giornalistico del centrodestra. Peccato che di Facci nei palinsesti non vi sia traccia. I maligni incolpano il tentacolare manager Beppe Caschetto. Ora, ma diciamo una parola definitiva su questa questione della 7. Ci vai o no? Punto di domanda. Io non ho non ho firmato niente. Mi avevano chiesto di partecipare al programma, non so se l'avete presente, In Onda, per sostituire Luisella Costamagna. Sì. Beh, siete biondi uguali. Abbiamo definito il contratto in ogni minimo particolare, salvo che quest'estate poi un blitz ha portato il collega Nicola Porro a sostituirmi. Tuo amico, tra l'altro. No, fino a quel giorno sì. Avete rotto l'amicizia? Ti sei arrabbiato. Solo una questione di stile, perché non abbiamo comunicato, in questo periodo. Insomma, poteva farmi una telefonata. Tutto qui, ma sono cose nostre. Ma da cosa nasce questa cosa, secondo te? Ti hanno corteggiato? Non lo so. Beh, è da aprile che me lo dicevano. Io posso solo fare assiomi elementari, tipo che Porro a un agente io no, però... Che Porro è più bravo di me, che ne so. Chi è come agente Porro? Signor Caschetto? Evocato da lì, il signor Caschetto. Tu non hai nessuno, no? No. Però hai Mentana dietro un po', o no? Mentana? No, direttore del TG5. Mentana della non è non mai ti voleva, stato... no? No, non lo so, non era un interlocutore. Non era un interlocutore? No, mi risulta che sia... Ma finora, siccome si è sempre detto nell'ambiente giornalistico, so che la cosa non interessa molto il grande pubblico, però che tu eri pagato senza ancora avere un programma. Invece non è vero, non hai mai firmato nulla. Mai preso una lira Non ho mai firmato e mai preso un soldo. Però ti hanno presentato i palinsesti. E questa è la cosa assurda, sì. Ti hanno creato un danno da questo punto di vista? Se Mediaset, per la quale io lavoro da molti anni facendo una rubrica la mattina, non mi riprenderà perché tutta l'estate che legge appunto che io andrò alla 7, insomma, un danno sì, ma l'hanno creato. Addirittura. Vabbè, un danno. Ma è vero che non volevi il signor è vero che non volevi il signor Parenzo in onda? Ma alla gente che interessa questo? Ma chi ci ascolta? Che gli frega? È vero o non è vero che volevi il signor? Mi voleva fare la pelle, amico mio. Non volevo Parenzo esclusivamente in relazione ad alcuni servizi che aveva fatto. Però questo è vero. Messo dei paletti e loro non li hanno accettati. Lasciamo perdere le parenze. Posto che questo non interessa a nessuno, siccome mi hanno in origine mi avevano chiamato per controbilanciare tutta una trasmissione che sostenevano essere troppo appunto sbilanciata a sinistra, io dissi: allora però neanche i servizi devono essere tutti di sinistra. Quindi devono esserci dei servizi anche di centrodestra. Ma io sono di sinistra. Ma questo, alla fine, chiudiamo poi questa perché vicenda. Io sono di centrodestra? Appunto! Qua di centrodestra c'è solo Cruciani. Si potrebbe invitata, discutere. Non si capisce perché. Tu sei fascista, che è un'altra cosa. Allora, però voglio chiedere l'ultima cosa. Ma ormai è chiusa la vicenda con la 7, o no? No, non è chiuso niente, perché non si è mai aperta, quindi non è chiusa. Non si è mai aperto nulla? Io magari ci parlo ancora, non lo so, io sto a casa mia, non so come dire. Bene. Non è interessante, parliamo d'altro. Com'è la televisione oggi, signora Ravetto? La guarda lei? Sì, la guardo compatibilmente con gli orari di tutti. Ci sono troppi babbioni? Troppi pannoloni? Ma io so dove volete arrivare. Dove vogliamo arrivare? Cercate di essere espliciti. No, ma... Fate riferimento a qualche mia dichiarazione. Un po' di nomi, sottosegretario. Cercate di avere il coraggio che compete a una trasmissione che si vuole dimostrare coraggiosa. Il sottosegretario Ravetto farà i nomi dei conduttori Rai e Mediaset. Che sono anzianotti e sono da mandare in pensione. Ma non è una questione di anzianità. Non è una questione di anzianità, è questione che in video come in politica, secondo me, è corretto vedere anche facce nuove. Abbiamo giovani talenti. Quindi Vespa importanti. È ora che vada in pensione, Vespa? No, però certamente abbiamo i Faccia, abbiamo i Porro, abbiamo i Parenza, abbiamo i Cruciani, abbiamo i Mentana, abbiamo i Vinci, abbiamo i Paragone, abbiamo un sacco di splendidi quarantenni e cinquantenni. Basta con Vespa. No, ma io non sono dell'avviso del Facci, non bisogna levare, bisogna aggiungere. Quindi benissimo, abbiamo anche un fantastico Floris, bisogna continuare sicuramente con i talk tradizionali, però vedere anche un po' di giovani. Chi le piace di più e chi le piace di meno? Ma non sono abituata a fare le classifiche, diciamo. Io che sì. Ci sono dei giornalisti che secondo me pur nelle convinzioni magari insomma diciamo differenti dalle mie o certe volte Santoro anche piace. Non è il mio preferito, ma diciamo che secondo me ci sono persone, ci sono giornalisti più o meno obiettivi e più o meno competenti, però non è, voglio dire, il mio... Com'è diplomatica? Sta sudando moltissimo, teme... No, non è questione, lei che gocciola di Autan e se continua la spruzza ancora. Va bene, posso tradurre in lingua italiana, quello che ho capito. Io non l'ho tradotto, lei non traduce. È la mia libera interpretazione. Ha detto allora, io poi traduco lei. Devono andare a casa, Fede. causa, perché probabilmente ha ricevuto un danno. Scusa, vabbè, allora cosa fa? Traduce. Vabbè, Fede Vespa a casa. Fede Vespa. Beh, sì, è un titolo. Giusto, è un, Fede, è Vespa, un titolo. Fede Vespa, basta. Io. È un rompiballe, faccio, però insomma, le notizie le sa. Allora, Fede e Vespa. No, a casa. Però è vediamo un Cruciani che. No, no, ma noi siamo qui. Ma noi siamo. Ma per carità. Perché no? La notizia è Cruciani si candida a sostituire Vespa. State zitti, ha detto così. Piercarlo da Torino. Diamo parola agli ascoltatori. Queste follie, dite voi. Piercarlo da Torino. Noi stiamo bene qui alla Zanzara su Radio Sempre. Piercarlo da Torino, buonasera. Dica. Buona Italia per cominciare, ma forse non era il momento esatto perché non avete collegamenti con dei leghisti. Allora ah, lei dice Buona Italia perché ogni volta qualche leghista, in particolare Borghezio, dice Buona Padania. Va bene, abbiamo capito, signor Piercarlo. Sì, è il solito. Vabbè, prima di tutto complimenti a lei, a Parenzo, per certi personaggi che riuscite ad invitare e che sotto, anche se a denti stretti, mi fanno morire da ridere. Comunque, questa sera ho sentito qualche notizia velocissima dove il governo pare che abbia rinunciato all'aumento dell'IVA, abbia rinunciato alla super tassa. La domanda è, qualcuno dei suoi interlocutori magari sa dirmelo, i soldi dove continuano a prenderli se poi si parla sempre solo di pensioni? Questo è interessante, per Carlo, infatti stiamo tutti analizzando ancora, le cose non sono chiare, forse si interverrà sui contributi alle cooperative, sulla fiscalità alle cooperative, non lo so, sono discorsi che vanno molto nel dettaglio, domani se ne occuperà Oscar Giannino alle 9, sempre qui da Vetro. Però è importante che il contributo di solidarietà, ad esempio. Io sono d'accordo, io l'avevo definito. È rimasto per i parlamentari. È rimasto. Lei è d'accordo per i che sia rimasto per i parlamentari? Certo, ma guarda, io sono una di quelle che le dice che sarei altresì d'accordo se ci venisse assolutamente dimezzato lo stipendio, perlomeno adeguato a quegli europei. Qual è lo stipendio giusto? Sono assolutamente. Ma allora, prima euro, di 2005, tutto c'è un errore di fondo, non è questione di giusto cosa sbagliato. Scusa, il contributo di solidarietà che resta per i parlamentari, cioè viene tolto, ma resta per i parlamentari. Benissimo, perché in questo modo lei può andare tranquilla per strada, può andare a testa alta. No, allora, adesso al di là delle facili ironie, al di là delle facili ironie, lei prima ho sentito una frase, posso riportare una frase che ha detto prima lei? Sì, ma non è una frase allora, privata. Sì, non sì, è. No, al di là ha delle detto, finalmente posso andare per strada. Io le dico questo, bisogna certamente non fare gli errori di cadere nel populismo per cui non diventa più importante quanto e come un parlamentare lavora e quanto e come produce per la collettività, ma l'importante è che comunque sia pagato il meno possibile, perché questo è un populismo, il politico va giudicato per l'attività che fa. Detto questo, io sono assolutamente favorevole ai riallineamenti a livello europeo, anche perché, lo dico anche come politico giovane, credo che si debba contribuire anche con l'esempio e prima di tutti in momenti in cui l'economia è in d'accordo. Una situazione di difficoltà. Però resta solamente per i parlamentari sto contributo. Cioè, sì, ma dove sta il problema? Scusi, è demagogia al contrario. Vabbè, facci, però lo lasci dire a me. Io ritengo che comunque sia importante anche che i politici diano un segnale. Se si può dare un segnale, diamolo, non si vede. Vi lamentate così, se non lo diamo. Ma così strada può andare tranquilla? Questo mi ha detto lei prima, sì, lo dica, sia esplicita. Io vado tranquilla per strada perché faccio bene il mio lavoro d'accordo. E faccio però, il mio dovere. Però lei prima ha detto, eccetera. Meno male che hanno abolito il contributo di solidarietà, altrimenti gli sputavano in faccia. Questo no, ma questo è un concetto diverso, non ho detto questo. Quello che voglio dire è che io ero assolutamente contraria, io sono contraria all'introduzione delle tassazioni in generale. E quindi sono ben lieta che il contributo di solidarietà sia stato eliminato. Sono convinta che sia importante dare un segnale da parte della parte politica. Fate attenzione che in tutta Europa, io ero in Francia l'altro giorno, il contributo di solidarietà permane per i patrimoni di sopra i 500.000 euro, ma permane. Quindi quando si dice sempre governi non fanno, gli altri in questo caso, ecco, secondo me si stanno però comportando diversamente. È vero che le è venuta fuori questa cosa di pancia prima, quando ho saputo che veniva mantenuto per i parlamentari, così posso andare per strada e non mi tiro una roba. Le torno no? A ripetere. Io perché vado non me la vuole dire strada. Questa cosa? Ma che non è che non gliela voglio dire. Non è una cosa strana. No, le voglio dire che secondo me, Massimo, non è che dovete per forza necessariamente storcere la dichiarazione. No, di non la voglio storcere. Io, è una cosa invece che le è venuta spontanea ed è bella. Io preferisco poter andare per strada sapendo che la gente sa che per prima contribuisco. Io vorrei. Posso andare tranquilla per strada. Sì, e quindi se il prezzo da pagare è un domani eliminare qualunque tipo di qualunque cosa che venga percepita come un beneficio. Sono d'accordo. Io sono d'accordo. Quindi non vedo dove sia il tema. Detto questo, rimango convinta che il politico vada giudicato per come opera. Quello è, però mi la lasci dire, è scontato. Cioè, sì, ognuno... è scontato fino a un certo punto, perché mi sembra che talvolta ci sia un po' la corsa. No, una domanda, perché sono un po' fuori non tema. Sono aggiornato. Come alla fine le pensioni no, i comuni no, le province no, dove li pigliano i soldi? Le regioni no, le pensioni no, i diritti no, il welfare no, i patrimoni no, le aliquote no, gli incarichi no, i contributi no, appunto, i calciatori no, l'IVA no, la chiesa poi figurarsi no. Dove... questo è un dubbio che abbiamo, che abbiamo. Aveva anche il signor Giannino quando è uscito da questa stanza. Che ecco, un attimo solo, la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. La Zanzara. Con tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Eccoci qui di nuovo in diretta, la Zanzara da Vedrò, 800 24 00 24. David Parenzo con me, insieme a Filippo Facci, che deve mettersi che la cuffia, sta facendo un casino terribile. Laura Ravetto, sottosegretario ai rapporti col Parlamento. Ma cos'è il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento? Sono buoni i rapporti con il Parlamento. Già il ministro dei rapporti con il Parlamento lo si conosce, signor Elio Vito. Io prima ho dovuto chiedere chi è il ministro dei rapporti col Parlamento. Perché non me lo ricordavo. Ma non si sente mai. Ma perché ma esiste, qui, c'è Vito. Esiste, ecco è vivo. Quale errore. Lei l'ha visto? Ecco chi è? Ecco, avanti, allora, il ministro Vito è vivo, per quello attivo, hanno preso lei. Preparatissimo. Preparatissimo. Detto questo, ma che serve? Visto che anche voi fate l'errore, dopo vi dico che cosa serve. Anche voi fate l'errore gravissimo che sta ingarbugliando la politica, per cui se un politico è visibile, ma non è un politico no, che fa, eccetera. Se non è visibile, quindi non va in TV, non se ne viene radio, non fa qualche dichiarazione, allora chi è cosa fa? Questo è l'inizio della fine. Ragazzi, questo è l'inizio della però fine. Però siamo già alla fine. È sottosegretario, lei è sottosegretario, ai rapporti col Parlamento. La sua giornata com'è? Com'è la sua che rapporto ha col Parlamento? Sì, allora, quando non è al telefono. Ironia, sì. Quando non è, allora, che Facci dice che lei è spesso sì, al no, telefono. È corretto dare. È spesso al telefono, anche quando era a Ballarò è stato al telefono. Dov'è il BlackBerry della signora? Va bene, però siamo arrivati alle cose storiche di 50 anni fa. Nota puntata di Ballarò in cui la comunque il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, così come il ministro, segue l'iter dei provvedimenti da quando escono dal Consiglio dei Ministri e approdano ovviamente al Parlamento, quindi Camera e Senato, per le necessarie o eventuali modifiche. Senta, lei ha detto prima che le basterebbero, in realtà lo farebbe anche gratis il parlamentare, perché se lo può permettere. No, allora, io ho detto che talmente trovo bello questo, questo impegno, che lavorerebbe anche talmente credo insomma di poter in qualche modo trovare anche dare anche il giusto apporto a questo impegno, che lo farei effettivamente anche a titolo gratuito. Il tema qual è? Perché la perché lei se lo può permettere, guadagna un sacco di soldi. No, io avevo un lavoro prima d'avvocato che ho smesso di fare perché non volevo avere nessun tipo di incompatibilità. Quanto prendeva d'avvocato? Sì, perdoni, sono affari miei. No, sono pubbliche le dichiarazioni di redditi. Ma cosa c'è? Io non ho più reddito, io per coerenza non lavoro più. Io per coerenza faccio esclusivamente il parlamentare. Diciamo solo questo, prendeva di più da avvocato che non da parlamentare. Detto immagino. Questo, beh, prendeva di più. Il però doppio. Questi sono affari miei. No, detto questo, ma non è un reato però guadagnare. Però fatemi finire, però non è possibile reato. Con voi. Non è... Allora, no, il tema è che la democrazia comporta non soltanto che tutti abbiano giustamente il diritto di esprimere i loro rappresentanti, ma che anche tutti possano avere l'ambizione di far politica. E di tutta evidenza, quindi, è inutile Facci che si addormenti perché sono cose importanti, che dovendo poter far tutti politica, nel momento in cui si fissasse il principio che la politica a titolo gratuito, probabilmente potrebbero farla soltanto delle persone abbienti e questo non sarebbe svegliate corretto. Facci. Detto questo, è vero che vanno ridimensionati, certamente il beneficio alla politica, che però non facciamo poi no, la foglia di fico, non sono tanto e soltanto i costi della politica, i costi della politica non sono poi tanto e soltanto sulle istituzioni parlamentari, per carità parliamo, ne apriamo il dibattito, no, guardiamo a tutti. giusto, quindi no, guardiamo anche, no, infatti, alle varie è lei che dice società, che è giusto sì. Mantenere il contributo di solidarietà per i politici. No, secondo me è giusto dare buon esempio, secondo me invece è giusto dare buon esempio. Vabbè, ma lei Cruciani, lei lo farebbe anche gratis, lei lo farebbe anche gratis il parlamentare, perché se lo può permettere lo dica. Ma non è così, non era questo che volevo esprimere, però Cruciani faccia quello che ritiene. No, ma no, anche perché se uno dice ma sì, ma è un principio che può essere fuorviante, perché nel momento in cui uno lo facesse gratis poi dovrebbe fare altri lavori per mantenersi e quindi si potrebbero creare dei conflitti di interesse. Io Bloomberg credo di più fa il invece sindaco di New York gratis, ad esempio. Bloomberg io fa credo gratis sindaco di New York, però è Bloomberg. Certo, io credo che tutti debbano poter far politica e che ove possibile la politica sia un impegno che dovrebbe, diciamo, impegnarti quasi nella totalità, e quindi magari professioni in contemporanea, ecco, non so quanto siano poi Paci, diciamo. Che fai? Sei addormentato? No, è... niente, sto guardando i fatti miei. Sì, faccia con comodo. Con Stella, con signor Stella, perché andiamo a queste trasmissioni? Ci hai mai parlato, signor Stella? No, ma poi sai perché ci andiamo? Perché prossimamente Cruciani condurrà Porta a Porta. Ma non è vero, zero. Noi intanto veniamo in radio, perché così poi domani magari ci invita. C'è anche già il maggiordomo che apre la porta. Ci hai parlato o no con il signor Stella? No, mai. Mai? Mai parlato? No. Beh, mai nella vita adesso. No, non ci ho mai parlato. Hai letto qualcosa di lui? Hai timore di incontrare un... No, perché? No. Ma adesso, ma perché diventa un caso faccia? Ma non mai infatti, non avete proprio niente di cui parlare. Non abbiamo niente da dire. No, come no? Sentiamo Aurelio da Taranto. Buonasera, signor Aurelio. Cioè, Aurelio da Taranto è più importante di facci? Beh, sapete sì, Aurelio per me sì. Aurelio da Taranto, lei è importantissimo. Buonasera. Pronto? Dica, buonasera. Allora, buonasera. Intanto mi complimento per la trasmissione che è number one, numero uno. Io mi occupo di veterinaria, precisamente di animali. Ecco perché le piace. Non ho capito. Pronto? Sì, ecco, noi no, però, noi ecco non ci occupiamo di veterinaria. Comunque, ecco perché le piace, diceva Facci. Comunque, dica, signor Aurelio. I maiali, in particolar modo, vorrei curare un pochettino questi politici che stanno facendo i porci. Intanto. Okay, Aurelio, basta con queste cose. Ma che vuol dire stanno mi facendo i porci? Finire gentilmente. A domande da porci? Sì, un attimo solo se mi dà tempo. Allora. Iniziamo, questi la politici, bravo sto Facci però, giovane, siccome ci sta ancora gente che crede nell'illusività, no, della politica, l'illusione della politica, sia di destra che di sinistra. Allora mi dica Aurelio. Perché c'è gente che ancora pensa che il politico risolva i problemi dell'Italia. Allora, i politici non risolvono il problema dell'Italia. Allora, se vogliono fare politici con 2.000 euro al mese... No, però scusi, io non ho capito una cosa. O fa una considerazione che ha un inizio e una fine... Altrimenti mandiamo l'ambulanza. Città, oppure mandiamo subito l'ambulanza e non se ne parla C'è più. Un'ambulanza in zona? Dove si trova lei? A Taranto. Taranto a dove? Se mi fa finire, a Taranto. Sì, tanto lei continui pure a parlare, tanto è partita l'ambulanza. Che via è a Taranto, amico mio? Via Cavallotti. Via Cavallotti civico? Allora, veloce, perché sta arrivando l'ambulanza, amico io, veloce, via Cavallotti civico. Allora, ascolta, non abbiamo tempo da perdere, una tax force. Le buffonate non hanno senso. Stia gli italiani stanno sereno. Morendo di fame. Questo è il contesto. Morendo di fame. Due ambulanze. È ora di cena. Due ambulanze. Scusi, signor Aurelio, lei stia calmo, se si dove... fame. Cerchiamo le persone stanno morendo di fame. Meno politica e di fare situazioni migliori, perché situazioni migliori. Però scusi, signor Aurelio, in piazza tipo come la Libia. Sì, come la Libia, però scusi, signor Aurelio, dobbiamo buttare ma non si agiti così, non si agiti che le mettono la camicia bianca. Io li metterei tutti al muro. Lei stia tranquillo, se si avvicinano due signori che hanno un camice bianco e la prendono un attimo, la portano, li segua, bravo, stia tranquillo, fanno un check up una notte, si porta i soldi dell'Italia fuori, non continui così perché sennò aggrava, mi dia retta. Lo sa lei chi si porta fuori i soldi dell'Italia? E che ne so, tanto c'è la legge. I cinesi. Ecco, è gravissimo. La cosa fanno i cinesi, è il caldo di Taranto. Camminano con le macchine di grossa cilindrata. Vabbè. E si portano i soldi dell'Italia, hanno rovinato tutte le aziende italiane. Gli italiani non hanno lavoro. Non è disperato. Altro che ambulanza. Michele da Vercelli, Aurelio, sia fermo. Intanto segniamo, allora, a Taranto. Pronto? Ci sono dei cinesi con delle macchine grosse. Segniamo, cioè... Non fare l'analisi di tutte le telefonate. No, però, no, è una segnalazione per le forze dell'ordine. Bravo, c'è cioè, una macchina di cinesi. È bravo questo Facci, eh? Michele sì, da Vercelli, sì. Buonasera. È bravo. Cioè, bravo. Pronto? Potrebbe venire al posto vostro a la condurre la Zanzara. Pronto? Quando voi tra 100 anni mi sarete a condurre tutti insieme. Michele da Vercelli, buonasera. Sì, pronto, buonasera. C'è il riso a Vercelli, c'è il riso. Senta, io sono scandalizzato perché i politici no, da noi toccano, vogliono toccare le pensioni. Alla gente ma non è, che quando uno bene. Dice toccare le pensioni, adesso siamo seri. Ma magari. Non è che si toccano le pensioni nel senso che qualcuno toglie i soldi delle pensioni. Si alza l'età pensionabile. Ma questo è il punto. Io lo farei, così, io lo farei domani. No, ma magari lo farei. Però non è neanche così. Lei lo farebbe da domani, subito. No, non lo farebbe, no. Lei così giovane, eccetera, così non lo farebbe, no. Non lo farebbe. Non è riformista la signora. E vabbè, non vuole alzare la perché è impopolare. Michele, perché non si parla, non si parla di togliere dei soldi, si tratta semplicemente di decidere a un certo punto che si va in pensione più tardi e di decidere non gradualmente. Sì, naturalmente, poi ci sono tutte le cose così. Io fosse per me lo farei domani a 65, 66, 67, senza perdere. Poi c'è qualcuno che ci rimette, che va in pensione più tardi, aveva previsto, cioè, pazienza, in tutte le riforme c'è qualcuno che ci rimette. Sì, non esistono riforme a costo zero. Faccia, aiutami tu. È vero, no, non stava ascoltando. È vero, una cosa pazzesca. Allora, Michele, che stava dicendo? Scusi, per questo le pensioni non vengono toccate e nel privato vengono sempre toccate. Le sembra giusto a lei questo? Io lo dico al sottosegretario che ci sono delle casse statali, tipo adesso le faccio un esempio: poliziotti, militari, che questi vanno tranquillamente a 35 anni di contributo con 42 anni. 35 di lavoro e 42 anni di contributi. A me lo dice, certo. Ma certo, le sembra una cosa normale in Italia? No, è venuto a toccare le pensioni del povero Parega a 70 anni, deve andare ancora ma che c'è a toccare le pensioni? No, ma a parte che ci sono dei lavori, come lei sa bene, che spesso sono esclusi dall'aumento delle pensioni. Equiparare le pensioni a quelle europee, punto. E basta. Beh, non certo. Se ne poi sono argomenti che ormai sono talmente... Come dire, ne abbiamo parlato talmente tanto negli ultimi 20 anni che non ne posso, si è fatto niente, non se ne può più di riproporli ogni volta allo stesso modo. Basta con questa discriminazione nei confronti della donna, equiparare la donna. Le donne, la signora Ravetto, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, è donna, ha proposto anche all'interno del PDL una cosa sul 40% di donne in ogni lista no, del PDL. Vabbè, io vado. No, aspetta, Facci, non è così, se mi fai spiegare, non c'entrano niente le quote liste. Rosa per statuto, nel partito il 40%. Questa mia proposta che ho proposto nell'ambito del partito propone relativamente agli incarichi di partito, quindi non stiamo parlando di cariche elettive. No, volevo solo dire che aggiungere che ci sono anche c'è una trasversalità, giusto, politica. No, perché c'è anche l'onorevole Mosca che ha fatto un libro insieme. No, perché quella è tutta un'altra cosa, perché loro si riferiscono alle società. Io non sto parlando di società, io sto parlando di partiti. E ho chiesto, e vedremo se il segretario seguirà questa strada, che laddove in un partito, diciamo, ho chiesto e vedrò, così, non si proceda a congresso per l'elezione dei vari incaricati, coordinatori provinciali, coordinatori comunali, no, è importante, quindi laddove non ci sia un processo democratico di elezione, ma rimanga la cooptazione, cioè di fatto la nomina, non ci sia in queste nomine nessuna prevalenza di un genere su un altro. Io non ho capito. In un rapporto 60-40%. E chi le sceglie? Detto in parole povere, per me significa che se domani nel fare coordinatori provinciali, cittadini, nell'ambito del partito, devo ripetere, si va a congressi, decide la base, eccetera, vince il migliore. Se invece rimangono le nomine, così come allo Stato è su molti incarichi, visto che di nomine si tratta e quindi la nomina in sé non è che abbia una giustificazione più o meno diciamo meritocratica, allora ci sia una rappresentatività di genere che sia bilanciata. Perché oggi, non ci vedo oggi, niente oggi di scabroso. Oggi ci sono poche donne, questa è la realtà. Ma se faccio un se per ragiono sul numero dei coordinatori, ma no, perché se non c'è la prevalenza di un genere su un altro nel rapporto 40-60%, vuol dire che tu non puoi avere né più del 60% di uomini né facciamo più del 60% di donne. La signora Minetti, consigliere regionale, ma prima di tutto, guardi Parenzo, le dico il suo metodo sarebbe stata candidata? Prima di tutto lì stiamo parlando di cariche elettive, lì stiamo parlando, scusi, non è di sinistra, sarebbe stata candidata o no? Però scusate, di queste candidata. Cose, ma non c'entra niente con gli incarichi di partito. Vabbè, quelle sono cariche elettive. Vabbè, lì si parlava della regione, io sto parlando degli incarichi di partito. Addirittura là c'era una procedura procedura di elezione. Io sto parlando di incarichi di partito. Poi bisogna vedere queste donne, no, caro Facci, chi le, mi scapperebbe una battuta. No, bisogna vedere chi le nomina queste donne. No, ma appunto, anzi, io volevo fare una considerazione politica. Bisogna vedere allora se si adottasse questo criterio del 40% delle, di donne da scegliere in organismi di partito qualora non ci siano congressi. Che è già complicatissima come cosa. No, comunque, non è complicatissima. Sì, dico che dove non c'è concorrenza. Poiché appunto attraverso la cooptazione comunque significa alla fine che decide Berlusconi. Si tratta di capire se mettendo il 40% di donne decise da Berlusconi ce ne sarebbero di più o di meno, per cui non conviene, secondo me, cioè Berlusconi metterebbe di più del 40%, significa che ne mettete di meno così. Io ho fatto parlato di un Berlusconi un farà il 100%. Facci, sono stata intelligente, ho detto che un genere non deve essere prevalente sull'altro. Quanti generi sono? Un rapporto del 60-40. Lei conosce la signora Minetti? Signora Ravetto, conosce la signora Minetti? No, personalmente no. L'ho incontrata sì un paio di volte, ma se in occasione di qualche congresso, di qualche congresso? Di partito, sì. Non ci sono, ci sono stati congressi. Non esistono. Come no? Congressi. Come no? Congresso. Beh, io come PD, responsabile del settore propaganda e comunicazione del partito, corresponsabile, sono stata fatta nell'ambito di un congresso, così come il nostro ultimo segretario all'assemblea del partito. Vabbè, però ma, al di là di queste idiozie, sì, non guarda, si può. Ho solo ripetuto. Però vedete, purtroppo poi non è che parlare, uno deve star qua di... se il gioco è a sminuire la categoria femminile in politica, no. Ce la farete. Mi tocca interrompere. Allora, ma io non passo fare posso, no, non lo dico, no. La faccio io la battuta. Fare qualsiasi osservazione, anche proprio di bassa lega, proprio maschilista, sulla Minetti è lecito. Perché che non abbia nessuna esperienza, capacità e merito che non sia quello che ha capito anche l'ultimo dei pescatori di Mazara del Vallo è lecito, bah, guarda, è normale. Dopodiché è giusto che lei la difenda per spirito, spirito di corpo. Io guardi, non è una questione di difesa. Io credo che ognuno dovrebbe avere il rispetto degli altri, soprattutto se non li conosce, se non no, sa. No, io non la conosco, non ho nessun rispetto però per la signora questo, Minetti. Non entrerò in queste provocazioni. Non ho ma io non voglio provocare anche un ragionamento. La mia è un il mio è un concetto, non voglio provocare. Io comunque stavo parlando della mia proposta all'interno del partito. Se poi questo vuole essere strumentalizzato per dire che questa proposta va buttata via perché a vostro avviso le donne in politica non sono capaci, ma fatelo, io andrò avanti con la mia proposta. Secondo lei aveva delle qualità per essere, però le ripeto, per essere Cruciani, candidata no, a... io penso che non debba essere cooptato nessuno, negli uomini e nelle donne. Cruciani, io non so neanche se lei abbia le qualità per condurre questa trasmissione. Può darsi di no, ma questo lo dico, però per fortuna c'è il mercato che giudica, mentre in quel caso c'è una democrazia che giudica. Beh, oddio, c'è il listino bloccato, non so se sia molto. A proposito di mercato, non c'è il mercato che giudica le elezioni dei parlamentari, perché se qualora ci sia ancora la cooptazione. Quello che volevo dire io è che non ci deve essere la cooptazione, punto, né di uomini né però di donne. Però intanto, secondo me, è un passaggio importante all'interno dei partiti che si possono autoregolamentare, andando proprio incontro a questo principio che condivido, far vedere che effettivamente dalla base, dal basso, si fanno i congressi e si decidono. Ma è stato un errore candidarla, l'ha detto pure Formigoni. Basta, anche se la però, che cosa condivide? Allora, Formigoni a Rimini, sapere che cosa condivide, ha detto che condivide? Condivido il fatto che bisogna passare in politica dalla cooptazione alla reale concorrenzialità che si fa con un processo democratico dal basso. Quindi, che in lingua italiana significa abolire il mattarello, un portale. No, io stavo adesso stavo parlando dei ruoli di partito. Ma lei se vuole parlare le liste della no? legge elettorale, vi spiego cosa penso della legge elettorale. No, no, la lista bloccata, solo le liste bloccate. Allora, vi dico subito, se l'alternativa sono le preferenze, io vi dico che è risaputo che nel nord Italia la preferenza è espressa al 20%, non di più, e che purtroppo in molti ambiti territoriali la preferenza la mafia, comunque e una dunque, realtà collegi, per cui meglio se, collegi, vuoi, che cosa? Se vogliamo arrivare ai collegi, anche qui dobbiamo secondo me levare il velo dell'ipocrisia. Sappiamo tutti che ci sono collegi più o meno sicuri. Vabbè, è abbastanza evidente che in Emilia Romagna no, sono gli elettori quindi che decidono, no, che c'entra, non credo che in Emilia Romagna un candidato del PDL a Bologna abbia delle grandissime chance. Vuol dire che governeranno sempre i comunisti, beh, insomma, non lo so, però e certamente a Bologna a un certo punto ha vinto il centrodestra, ma certamente ne ha molte di il fascismo. Vabbè, no, io non è che devo, ripeto, difendere continuamente, sto cercando di spiegare un concetto, poi voi potete non essere d'accordo. Cioè, io non sto dicendo che il sistema del collegio uninominale sia un sistema necessariamente sbagliato, sto dicendo che non andiamo a raccontare alle persone che è un sistema così diverso da quello delle liste bloccate, perché non è così, perché ci sono collegi più o meno collegi sicuri. Uninominali, detto uninominali questo, rispetto alle liste bloccate sono molto detto diversi. Detto questo, sa cosa ritengo io? Ritengo che la chiave di tutto sia, soprattutto nell'ambito dei partiti, anche qui in una chiave di autoregolamentazione, avere avere magari anche dei codici interni che diano dei criteri, perché ci possono essere anche dei criteri interni per la scelta delle persone che mettono il sino bloccato. Filippo da Firenze, buonasera. Un ascoltatore, adesso vai via. Non mi fanno parlare. Filippo da Firenze, c'è democrazia. Buonasera. C'è computazione anche qua. Senta, volevo fare una preghiera a tutta la nostra classe politica. Smettetela di fare leggi pensando al voto elettorale. Io sono un artigiano, ho un reddito medio, ho un tipo di attività che non mi permette di fare assolutamente nero, perché lavoro con aziende medio-grandi che lavorano su budget. Però se mi venisse chiesto di dare 1000 euro in più, una tantum, per creare una base per andare a risanare il deficit, purché il mio governo fosse un governo trasparente che mi desse dimostrazione di utilizzare questi soldi realmente per il bene del paese, lo farei senza problemi. Purtroppo però ad oggi la classe politica di destra e di sinistra che c'è non permette di fare questo, non permette di avere fiducia, e come me questo discorso lo sento fare dai miei parenti, dai miei amici. Va bene, Filippo, lei rientrava nel contributo di solidarietà oltre i 90.000? No. Adesso è stato cancellato, non rientrava. No, io un reddito... No, per sapere. Bravissimo questo signore. No, assolutamente. Ci vuole, nei momenti di bisogno, bisogna arricciarsi tutti le maniche, però ci deve essere dall'altra parte, cioè da chi chiede, ci deve essere la serietà di far vedere che questi soldi effettivamente vengono spesi giù in maniera corretta. Per esempio, oggi, la ringrazio Filippo, oggi è stata decisa l'abolizione delle province, però per via costituzionale. Campa cavallo. Un'altra cosa è stata decisa per via costituzionale, il dimezzamento del numero dei parlamentari, non si può fare diversamente. 2045. Però anche qui siamo nel campo delle promesse, perché lo si promette, lo si dice da tantissimi anni, ed è stato deciso oggi in un vertice di maggioranza, poi bisogna presentare le proposte in Parlamento, eccetera, eccetera. Cioè, l'urgenza è ora, cioè io non riesco a capire. Luisa dalla provincia dell'Aquila, buonasera. Ecco, Luisa, aspetti che dica. Tengo il gas. Ecco. Sì, che sta facendo, signora Luisa? Sto lessando le patate. Che cosa straordinaria, sta lessando le patate. Tu che sei così detto che gli italiani hanno fame? L'ascoltatore di prima ha detto che ma solo patate mangia, c'è la crisi allora. No, Berlusconi ci affama. Miseria, non mi sono ancora ridotta così povera. Allora, è strano, siamo alla quarta settimana del mese, gli italiani non... No, ce la faccio, ho comprato delle buone scamorze qui in Abruzzo e stasera le mangiamo. Stavamo parlando giusto di questo. Ecco, sì, io volevo fare due domande molto, molto veloci alla parlamentare, perché... Velocissima, stasera, Luisa, sì. Membro del governo, Sì, come sempre, scusi, sento poco. No, membro del governo, abbiamo detto. Sì, membro del governo, certo. Non essere maschilista. Ancora di più. Io voglio fare due domande secche alla signora. Una, la prima è: quando Di Pietro ha proposto l'abolizione delle province, come ha votato? Certo. La seconda domanda... Vabbè, io devo cenare però, cioè... La seconda, non lasci perdere facile. La seconda domanda, Cruciani, è questa. A metà agosto abbiamo visto il Parlamento con 19 circa parlamentari presenti, gli altri tutti in vacanza. Visto che fa la maestrina dalla penna nera, volevo sapere lei dove si trovava in quel periodo. Penna nera? Chi è che fa la maestrina? Lei, la parlamentare. Allora, quella riunione là era assolutamente inutile. Il membro di governo. No, non l'ho detto io. No, Cruciani la fa la maestrina della penna nera. A parte non ci conosciamo, mi scuso se ho avuto toni da maestrina. Non era mia intenzione, mi scuso pubblicamente. Io non ce l'aveva con noi, no? Non avevo assolutamente intenzione. Le dico subito l'abolizione delle province, la proposta di Di Pietro che andava nel senso dell'abolizione, naturalmente con i problemi del fatto che non ha fatto legge costituzionale, eccetera, eccetera. Io comunque, contrariamente a quanto è stato fatto dal mio gruppo, io non l'ho votata. Nel senso che io effettivamente sono d'accordo sull'abolizione delle province, naturalmente a certe condizioni. Per esempio, si dovrebbe fare un ragionamento su quelle province relativamente agli abitanti. So che era stata fatta una proposta sui 300.000 abitanti, quindi da questo punto di vista mi trovo assolutamente d'accordo, perché secondo me è importante. Poi naturalmente bisogna cancellarle tutte. Se posso finire perché signora di domande me ne ha fatte due, solo cune io abolirei, che è quella della dove risiede la signora per ciò che concerne la presenza dei parlamentari. Poi bisogna campagna e la presenza è sempre necessaria, eccetera, naturalmente si deve tenere conto che, trattandosi della manovra economica, quelle che erano state convocate erano le commissioni competenti. E come lei sa, quindi non c'è stata una convocazione d'aula, se no ci sarebbero dovuti essere tutti naturalmente parlamentari. No, quella a cui si riferisce detto la signora questo, era la convocazione d'aula in cui c'è, però al Senato era la commissione, però era al Senato, no, al Senato era, era una comunicazione del ministro, esatto, ai parlamentari che si occupavano di questo, bene, nell'ambito delle commissioni di bilancio e finanze. Va bene, andiamo detto a... questo, sono contenta che si arrivi a controllare queste cose. Anch'io chiedo soltanto, oltre ai report che vengono fatti dai giornali, perché poi naturalmente ci sono sempre, andiamo a vedere, perché la generalizzazione è sempre spiacevole. Io ho dei colleghi che quotidianamente si impegnano in questo lavoro e la generalizzazione secondo me non va fatta. Marco da Rovigo, buonasera. Signor Marco? Buonasera dottore. Dica. Da Rovigo, quindi una delle province che doveva essere soppressa, che probabilmente non verrà mai soppressa, visto che ormai siamo, il governo propone una legge costituzionale per la soppressione di tutte le province. Semplicemente allora non questo, vedo una manovra che si è spostata, invece che una riduzione di spese, un aumento di entrate, e portare avanti forse all'infinito la riduzione del costo della politica che tutti noi ci aspettiamo, tutti noi contribuenti. Null'altro. Va bene, grazie. Non si doveva sposare lei, signora Ravetto? Però questi sono affari miei. Lo so, però non si doveva sposare. Già vengo accusata di fare la maestria della penna nera a parlare delle mie cose personali che non interessano. No, era stata annunciata, lei aveva detto. Alle persone interessate. No, c'era anche un'intervista su chi, mi state lontanamente mai ricordando un'altra trasmissione radiofonica. No, ma non è che non faccia paragoni. Attenzione, che salutiamo attenzione. Gli amici della pecora. Gli amici della pecora, ma noi infatti lo chiediamo così, sommessamente, ma non si doveva sposare, le mica vogliamo giocarci intorno. Sono affari miei. Con grande pacatezza. Non è che lo può dichiarare a chi, invece non lo può dire. Si è già sposata. Ma a parte il fatto che io con quel mito di Signorini, se permette, un rapporto un po' diverso, parlo di stima rispetto a quello che ho con lei, Cruciani, con tutto il bene che le posso muovere. Quindi io a Signorini posso dire delle cose che ce ne andiamo, ce ne andiamo, va bene, va bene, va bene. Adesso lei è un po' di strada ancora, sentite, la parola, si è fatta una certa, si è fatta una certa, va bene, quel mito di Signorini, col mito di Signorini si è fatta, bene, domande su Di Pietro, un grande giornalista, pubblicità, grazie Laura Ravetto di essere stata con noi, grazie, mi ha liquidato. La zanzara. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Siamo qui di nuovo in diretta con la zanzara, sempre da Vedrò. Facci, non dovevi andare via? Volevo solo dire... Che volevi dire? Fare una considerazione spirituale. La Marcegaglia è una credente. No, dai, su, smetti, è una credente. Arrivederci. Fai sempre. Ma cos'è? Ma impazzito. Facci. Poi dice non lavora la sette. Te credo. Cosa da pazzi. È un uomo libero. Vabbè. Canti con noi, sindaco di Firenze, Matteo Renzi. No, per carità, già non le fa più queste cose. Faceva la ruota della fortuna tanti anni fa. Ormai non è che si mette più a cantare Pippo Franco, il sindaco di Firenze. È un mito. È un momento di pagina radiofonica tra Facci e Pippo Franco. Ma perché Facci ha fatto questa uscita qua? Perché no, io lo so perché. Perché si riferiva a una presenza di Telese famosa qua, in cui aveva detto una cosa sulla Marcegaglia. Allora voleva mettermi paura. Con questa cosa replicando, replicando la cosa di Telese. Su 2 milioni di fronti. Vabbè. Va bene, 800 24 00 24, il sindaco di Firenze Matteo Renzi è con noi. Qualche ascoltatore, voi fate volare tutto. Qui succede di tutto. Qui è un tecnico che ha lanciato qualche cosa. Un cestino. Ma c'è tecnico, è Facci che ha lanciato dentro un cestino. Facci, ma è pazzo. Vabbè, ma è pazzo. Simpatico, è pazzo. Ma pazzo. Non è normale. Allora, una delle battaglie più importanti che il sindaco Renzi ha fatto è a difesa del Lampredotto. No, ma perché sei fissato con questa cosa? Tutto il pomeriggio che mi fa una testa così. Di cosa vuoi parlare con Renzi? Della Fiorentina. Della Fiorentina. Il Lampredotto. Perché una delle banalizziamo il Lampredotto. Ma cosa? Io non sapevo. Mi spieghi cos'è il Lampredotto? Perché te non sei toscano. No, una volta me l'ha anche detto. Non mi ricordo. A Firenze c'è uno di questi piatti tipici di Firenze, come in Veneto ci sono Firenze, detto così sembra di Pisa, però così non va bene. sta tirando roba Facci. Allora, Facci, voi non lo sapete, sta tirando degli oggetti dentro lo studio. Dove prego uno dei due tecnici qui presenti di uscire. Se c'è della polizia, arrestate Facci. Di sequestrare il signor Facci, di fermarlo. Allora, cioè. Torniamo, poi andiamo alla cos'è politica. Cos'è il Lampredotto? Il Lampredotto, però spieghiamo anche qual era la battaglia specifica, molto rapidamente. Contro l'Unione Europea. Il Lampredotto è un, c'è un'usanza tipica fiorentina di prendere questo panino con un particolare tipo di carne e di mangiarlo a tutte le ore, in particolare dal pranzo. Ci sono tanti luoghi, tanti piccoli chioschi dove l'antica tradizione fiorentina va avanti con il panino con Lampredotto, con il gottino di vino. Fondamentale. Dicesi gottino di vino, un bicchiere di vino che viene bevuto accompagnato al panino con Lampredotto. Ancora tante persone, voglio dire, anzi vi invito a mangiarlo. Fatto sta che 2 anni fa l'Unione Europea decise di proibire, per una strana norma per cui l'Unione Europea ci racconta tutto delle norme sul Lampredotto, sul gottino di vino, poi casualmente si dimentica di parlare della politica fiscale. Ma voi ve ne siete fregati però. No, io feci disobbedienza civile alle 6 di un... E oggi a che punto siamo? No, abbiamo vinto la battaglia contro il tentativo burocratico dell'Unione Europea di bloccare il Lampredotto e il gottino. È un simbolo. Perché volevi dopodiché credo, perché se posso dirla così, in una scala da 0 a 10 ai vostri ascoltatori di sta roba frega meno 12, meno 13. Questa è la mia impressione. Ogni volta però devo dire che gli ospiti che abbiamo ci dicono sempre a voi degli ascoltatori non frega nulla di questa cosa qui. Ora chiameranno tutti a difesa del Lampredotto. C'è la gente sul Lampredotto poi alle 8 di un fine agosto. Però è vero, abbiamo fatto questa battaglia sul Lampredotto. Ma è completamente pazzo, eh. Sta tirando roba dentro. Allora, voglio chiedere al sindaco di Firenze cosa ne pensa dello sciopero della CGIL. Iniziamo subito con una cosa subito soft. Soft, sì. Non credo pensa... che i sindacati debbano fare quello che vogliono. Per cui se il sindacato deve fare lo sciopero e che i politici abbiano il dovere non di giudicare il sindacato, ma di fare la propria parte. Per cui non capisco chi corre ad aderire allo sciopero di un sindacato. Bersani ha detto scioperiamo comunque, se aderiamo a tutti gli scioperi possibili immaginabili. Sbagliato? Io credo che chi aderisce a uno sciopero, come dire, può essere un lavoratore che prende e decide di partecipare allo sciopero. Il partito politico deve fare delle proposte, non mettersi a discutere CGL sì, CGL ma no. Ma chi va in piazza con la Camusso del PD? Sbaglia o no? Ma non, no, singolarmente perdonatemi. Che cosa, che vuoi fare? Che se uno è del PD non può essere a CGL? Che vuol dire? Io adesso... credo che un politico, un rappresentante di un'istituzione non debba stare a passare la propria giornata a discutere se sia giusto o no andare in piazza con la Camusso. E che il compito dei politici non sia quello di stare sulle piazze, nelle piazze, dentro le piazze, ma sia quello di raccontare che concrete idee abbiamo per il futuro dell'Italia. Dunque è sbagliato questo, per il Partito Democratico dire aderiamo allo sciopero come partito. Cioè, se lei fosse il segretario non aderirebbe qualsiasi sciopero. Nella fattispecie su questo qui credo che la partita vera, questa è la mia opinione, oggi sia quella non di contestare il fatto che ci sia bisogno di 45 miliardi di euro a tanto ammonta lì, ma sta cifra cambiando, più cifra meno, ma credo che i saldi però rimangano immutati sinceramente. Ma sia quello di dire vabbè, io non li prendo come fa Tremonti. Perché cosa ha fatto Tremonti? Tremonti ha fatto il gioco delle tre carte, tira fuori i soldi dagli enti locali aumentando però agli enti locali la capacità della tassazione. Però 2 miliardi sono diminuiti, pare, i tagli da quest'ultima versione, pare. Beh, anche questo è un ragionamento poco serio, perché se dici che i saldi, cioè che la manovra deve valere 45 miliardi o 40, quello ma che i deve saldi essere... rimangono invariati. Pare che ci sia un intervento sulle pensioni sugli enti locali. Sugli enti locali i tagli vengono diminuiti di 2 miliardi. Scusi Cruciani, ma le sembra normale avere le manovre ovino Kinder dove c'è la sorpresa? Questo ha ragione. E non sai mai qual è quella giusta. Fino all'ultimo, cioè, siamo stati un mese a fare le discussioni sulla manovra e poi mettono non è quella, è un'altra. Questo è ridicolo. Allora facciamo una cosa, mettetevi d'accordo, aspettate, poi ci sono questi statisti di oggi, cioè un boss. Scusate, ma Bossi bisognerebbe avere il coraggio di dirlo. Diciamolo. Cioè, una persona come Bossi oggi, cioè, chi gli vuol bene ha il dovere di stargli vicino. Noi abbiamo il dovere del rispetto, perché si però? Tratta... Cioè, ma in pensione ci deve andare lui, anziché continuare a chiacchierare di pensione. Cioè, per lo stato fisico. Non è per lo stato fisico, per lo stato politico di uno che nasce per fare la rivoluzione e finisce a essere il più grande conservatore della storia. Però è anche vero che dal punto di vista fisico forse non regge più, c'è anche un problema di quel tipo. Lei questo voleva dire... Io dico che una persona come Umberto Bossi non può essere il ministro delle riforme se dalla mattina alla sera passa il tempo a cercare di sabotare le riforme. Perché scusi, vogliamo intervenire in modo serio? Ma c'è un problema che ha a che fare con la salute di Bossi? Cioè, magari nel corso di questi ultimi anni è un po' invecchiato. Diciamo, non che prima brillasse per una capacità, diciamo, a me non piaceva neanche prima. Io non penso che il tema sia legato semplicemente alla salute. Penso però che sia un dato di fatto quello di avere il coraggio di dire, al netto del politicamente corretto, che le scene di Bossi con il figlio l'erede designato, che manda avanti il figlio quando lui non sta bene, cioè non è il Nord Italia, è il Nord Corea, una cosa del genere. Io sono assolutamente convinto. Bossi leader nordcoreano. Sì, bene, cioè, quel modello lì di rappresentazione politica a me non convince. Aggiungo. Cioè, lei dice addirittura un leader come succedeva in Corea del Nord. Leader, no, è corretto. Che, leader, che sfiorisce fisicamente e appare il figlio. Questo. Io la dico in questo modo: Umberto Bossi oggi, con tutta la stima e rispetto per la persona, rappresenta il partito che lui ha fondato e voluto. E che lo vede in Parlamento dall'87, perché poi si ragiona di rottamare, ma qui stiamo parlando di uno che è in Parlamento dall'87, cioè da prima che cadesse giù il muro di Berlino. C'erano ancora i puffi, credo ci siano anche adesso, no, su Sky. Più. Gargamella non c'è più. No, Gargamella c'è. Gargamella è vivo. Ma chi è Gargamella? Allora, Gargamella è vivo. Ma facciamo finire su Bossi. Sono sulla Lega. Mi porta a fumare. Ma si vergogna. Mi consenta. Allora, il problema che c'è è che non è accettabile che un partito come la Lega, nato per fare la rivoluzione, oggi riparli di Padania. Poi ci lamentiamo che l'Europa non ci vuole bene. Noi mandiamo Borghezio in Europa. Cioè, per forza lei. Però quello l'hanno votato. Non mi tocchi Borghezio. E lì hanno messo delle persone, Borghezio, hanno scritto Borghezio sulla uno scheda, che dice che quel killer Breivik, norvegese, sì. Breivik, signor è uno Breivik, che ha idee giuste. Uno che dice Mladic è un patriota. Da noi l'ha detto. Sempre qui la zanzara. Queste robe, francamente, mi ripugnano. E quindi dal mio punto di vista dico che la classe politica deve smetterla. Però mi scusi, è vero, passando al Partito Democratico, è vero o no che c'è un problema di legame con la CGIL? Finché non, lei lo so che lo pensa e voglio portare a dirlo. Io dico una cosa diversa. Io dico che secondo me il è vero sindacato, no, che deve rompere questo, rompere questo legame che ha con la CGIL. Non Democratico. È un problema di legame PD-CGIL, la devo dire tutta. Il problema è che i partiti oggi sono in crisi di rappresentanza, ma i sindacati sono anche loro. D'accordo, però allora è vero o no che il Partito Democratico, per essere un partito davvero, come dire, riformista, rivoluzionario, deve rompere questo legame stretto che c'è ancora con la CGIL? Ma sì, perché o no? Lo deve rompere? Io questo non credo. Perché deve tagliare questo cordone? Io sinceramente, non, di tutti i problemi che ha il PD, mi pare che il tema del rapporto del cordone ombelicale con la CGIL o con altre associazioni di categoria o sindacali aveva un senso 10 anni fa o 15 anni fa. Il vero dramma di oggi è che i sindacati rappresentano, ahimè, io dico ahimè 3 volte, sempre meno i lavoratori. Questo è il problema reale oggi. La CGIL, lei la considera un elemento di conservazione in Italia? Io considero una parte significativa del sindacato un elemento di conservazione. Cioè la CGIL? No, non solo la CGIL. Non è che la CGIL... Perché deve distinguere? Perché oggi lo sciopero è programmato dalla CGIL. Se la CGIL fa sciopero ci avrà i suoi buoni motivi. Io dico soltanto che non è possibile che un sindacato in Italia rappresenti per più della metà i pensionati. Ma è uno strumento superato lo sciopero, secondo lei? Ma no, assolutamente. Lo sciopero è uno strumento che ha ancora senso. Però perché in questo caso non va bene? Poi ognuno può scegliere quando farlo, ma perché deve essere superato? Io dico soltanto che un sindacato che rappresenta per più della metà i pensionati non va bene. Allora, vuole che le dica che cosa penso. Sì. Che così come vanno dimezzati i parlamentari, non dimezzato il numero dei parlamentari, sì, allo stesso modo bisognerebbe dimezzare il monte ore dei permessi sindacali. Oh, recuperi lì produttività. Mi piace questa cosa. Recuperi lì produttività. Questo altro che levare il 25 aprile. Chiami il 25 aprile e riduci del 50% i permessi sindacali. Oppure ancora, mi spieghi perché oggi associazioni di categoria, Confindustria, Confesercenti, sì, potrei fare l'ese Confcommercio e dintorni, sono viste come i punti di riferimento quando in realtà anche loro rappresentano sempre meno i propri iscritti. Perché? Perché sta crollando il meccanismo della rappresentanza. Se vale per i partiti, non è che non vale per i sindacati o per le associazioni di categoria. Detto questo, onde evitare che Marchionne e Camusso, chi butta giù dalla torre? Facciamo un giochetto simpatico. Sono due cose diverse, a me accusano di essere... No. Marchionne, Camusso, io non ho dubbi. Allora, siccome... Come è noto, lei... No, io invece non le dico da buon democristiano doroteo, come dire, che non sono peraltro, però le dico che non rispondo, le dico perché io una volta ho detto tra Marchionne e la Camusso sul referendum con chi stai? Io dissi tra Marchionne e la FIOM sto con Marchionne sul referendum. Oggi però credo che non sia propriamente sbagliato dire sommessamente che Marchionne non può tutte le volte farci la morale. Cioè, se alla fine Marchionne decide di fare una macchina decente, non è che ci offendiamo, perché alla fine qui il problema se no è che Marchionne mette bocca su tutto, mette bocca sul come fare il fisco in Italia e inizia a prendere la residenza in Italia anziché in Svizzera, si può parlare di fisco, questo è forte. Inizia a mettere bocca sulle questioni politiche tutti i giorni. Voglio dire, a me va bene, io ripeto, al referendum non avevo alcun dubbio, se fossi stato un operaio, un quadro, un impiegato della Fiat avrei votato a favore però della proposta Marchionne. Oggi ci faccio però dico Marchionne, se per caso gli capita e fa una macchina buona, è da una vita che la Fiat non tira fuori una macchina, insomma non ci offendiamo se la Fiat è bella, perché non è che tutte le volte può essere. Allora, il compito del politico non è stare con Marchionne o con la Camusso, il compito del politico è quello di dire: di che parliamo? Parliamo del referendum? Allora, sul referendum io dico chiaramente come la penso. Parliamo della vicenda, come dire, fisco. Marchionne ci prenda la residenza in Italia e poi ragioni il fisco. No, pubblicità, fisco. Pubblicità. La Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 24, sempre in diretta da Vedrò. Fra poco riprenderemo con le vostre telefonate. C'è con noi Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Ma hai, insomma, visto? Lei nelle ultime interviste, alla fine non diranno che sto con Marchionne sempre, comunque. Vabbè, però non sia paraguru in questo, lei dice le cose che pensa. Non è che alterna, non è che alterna bastonate a Marchionne adesso e prima elogi a Marchionne. Dice come la pensa, punto e basta. Bisognerebbe farlo di mestiere. Sì, non è perché la gente poi ormai la dipinge come filo, ma no, a me tanto, come dire, basta essere tranquillo con se stesso. Però mi dica la verità, lei si candida alle primarie del PDL? Quando ci del PD, quando del ci PDL, sarà la querelo subito. L'aveva perché provata questa lapsus? Era nel pomeriggio che la provava. No. Hai distrutto il sito Renzi, lo sai. No, va, figurati. Sì, adesso non cederò. No, PD, mio lapsus non freudiano. Lei si vuole candidare, ha in progetto di candidarsi, non è un delitto. Ci crede se le dico quello che penso davvero o no? No. Allora, no, però, su questo no, sulla su tutto il resto è giusto, io le dico la verità. Allora, secondo me, di uomini della provvidenza ce ne sono già stati a sufficienza. Ma perché io non sto dicendo che lei si sente fermo lì. Buono. Il problema qual è? Il problema è che in questo momento non ci salverà una sorta di superenalotto dei nomi, per cui metto Cruciani, metto Parenzo, metto Renzi, metto qualcun altro. Noi ne siamo esclusi. Per il momento, mai, no, dire fortuna, mai. Per fortuna. E anche per ci salverà una discussione vera su quello che c'è da fare. Vabbè, se noi abbiamo il coraggio, quello siamo d'accordo. Gli attributi. No. Lei presenterà adesso le 100 idee per allora, Italia. Allora, noi cosa facciamo? D'accordo. Noi andiamo a Firenze, facciamo una grande assemblea. Non lo dica in pisano. A Firenze. Firenze così sembra di Livorno. Firenze. Faccia per bene. Dai. Andiamo a Firenze e raccontiamo che cosa pensiamo. Faccio degli esempi. Scusi, quando si parla di riforma dello Stato, ma ha senso secondo lei questa discussione strepitosa sulle province? Ne abolisco un po', no, soltanto adesso alcune. La vogliono abolire per via costituzionale, tutte per via costituzionale, come è normale, però quindi vuol dire che non la fanno, ma al di là di quello, no, ma va tutto bene. Il problema è che tu o hai il coraggio di dire delle cose chiare o non vai da nessuna parte. Ma io sono d'accordo sulle cose che dice la maggior parte. Quando io faccio l'elenco delle cose da fare, dopodiché ce ne sarà uno meglio di me da candidare? Io spero di sì. Quello che deve essere chiaro è: ci devono essere le primarie. Andiamo sul politico. Che vuol dire? Che bisogna che non lo nega nessuno, diciamo. Bisogna che le regole siano le stesse che hanno consentito a Bersani, prima ancora a Veltroni, prima ancora a Prodi, di partecipare e di vincere. Non è banale. No. Se c'è questo, un under 40 che abbia il coraggio di dire le cose che diciamo da un anno, e cioè che bisogna cambiare con gli stessi nomi soliti che sono lì da 20 anni. La rottamazione è l'idea che uno che è stato in Parlamento per 20 anni però faccia spazio all'altro. Uno di noi ci sarà. Io sono d'accordo, però voglio sapere. Ce ne sarà un lei, siccome non lo ha escluso nelle ultime interviste che ha fatto, io vorrei che fosse ancora più esplicito. Se ci sono le condizioni, non so quale condizioni ci possono essere, non escludo che io mi possa candidare a fare il candidato del centro-sinistra lei lo alle dice, prossime elezioni. E poi lei, paraguru, ma lei, se ci sono le condizioni, non escludo, dopo un'attenta convergenza alla luce di una riflessione semantica. Che le devo sul dire? E lei non me lo vuole dire sì o no? Lei non me lo e tecnocratica? No, ma perché così? Perché non è allora, mi dica la no, risoluzione mi dica della no. persona. Ma glielo ho sempre detto io. Sempre sì, io voglio fare il sindaco di Firenze. D'accordo, però se ci sarà. Dopodiché, credo che uno di noi dovrà essere candidato. Uno di noi chi? Uno di questi ragazzi che verranno parte della proposta. Candidato, diciamo, alle primarie quando ci saranno. Alle primarie, però non so se ci sono le primarie. Non sì, so quando sono. Se non è il leader di questi qua, lei è il leader di questi qua. È chi leader, deve essere? Nel giro di me cambia sempre tutto. Magari troviamo una splendida 35enne capace che fa il mazzo a tutti. Non me lo vuole dire, bravo. Non c'è niente da fare. Però tu, io l'ho visto in questa giornata. Io lo so che si vuole candidare, ma non me lo vuole in dire. In questa giornata di Vedrò, io ho visto che lui parlava fitto col signor Letta. Che c'è? Era lì. Parlava fitto. State rischiando una querela da Letta immediata. abbiamo Letta adesso. C'è già un'ansa, eccola qui, l'ansa delle 20. Renzi parla con abbiamo traffico. Torniamo subito, traffico. La Zanzara. eccoci qui, ultimi minuti con il sindaco di Firenze Matteo Renzi, nostro ospite qui a Vedrò. Dove siamo ospiti, gentili? Siamo ospiti 800 24 00 24 per questo rientro della Zanzara. Grande rientro, all'orario, ricco di notizie, all'orario tradizionale. Chi ha detto fosse per lei, no, fosse per l'età pensionabile, alzerebbe subito, mi dica la verità. Sì, subito. Adeguandola naturalmente all'Europa e tutto. Io cambierei il sistema delle pensioni. Il PD è molto refrattario a questo. Come mai? È la voce principale del bilancio dello Stato. Perché è molto refrattario il Partito Democratico? Ma questo lo chieda il PD. Io penso che lei è dentro il PD. Sì, ma scusate, ma perché ve la rifate col PD quando c'è un partito politico che sta al governo che si chiama PDL che su sta roba non lo fa? Cioè, vabbè, perché capito? Questo non c'è dubbio. Il problema però non se è il PD dice, No, il PD è cioè, svegliamo questo segreto agli italiani. Il PD è all'opposizione, per cui sì, anche se fa delle bischerate, come si dice in fiorentino, resta all'opposizione. È all'opposizione, quindi non pure poi possiamo sempre prendercela con il PD e va benissimo. Però il problema è che in questo momento noi abbiamo un governo che sta rinviando i problemi. Non c'è dubbio. Politicamente non c'è dubbio. Parlando, quelli di prima hanno fatto il chiodo, sono andati al ristorante e ci hanno lasciato da pagare. Perché questo è il debito pubblico. L'hanno fatto il chiodo. Il debito pubblico hanno fatto il chiodo. È così, è la verità. I nostri genitori ci hanno lasciato magari una casa o i nostri nonni un conto in banca, però i nonni della politica, i genitori della politica ci hanno lasciato un debito pubblico che è spaventoso, 1900 miliardi di euro. Ha fatto un rigatino, come dicono amici miei. Allora, vabbè, lasciamo stare i riferimenti culturali, andiamo sulla politica. Allora, siccome questo è, io penso che sia compito della nuova generazione avere il coraggio di dire: signori, se vogliamo mettere le mani sui denari, partiamo da quali sono, quali sono le prime tre voci di spesa? Uno, pensioni, sanità, pensioni, diciamo, il sistema previdenziale. Due, no, attenzione, la seconda voce di spesa è il valore, no, è la terza, ha ragione, il secondo sono la sanità, la terza è il valore del debito pubblico, cioè degli interessi che dobbiamo pagare ogni anno. Poi c'è la scuola. Allora, ma Bersani è in grado di fare questa rivoluzione o è troppo vecchio? Appartiene ad un'altra generazione? Io spero che Bersani tiri fuori coraggio e energia. Alcune delle proposte che ha fatto, penso all'evasione, alla lotta all'evasione, penso alle caserme, siano cose giuste. Su altre... penso che ma sia può opportuno. Essere lui il candidato del centrosinistra? Credo che sicuramente credo che sicuramente si candiderà alle primarie, ce ne saranno anche altri. Non è il suo candidato. Però diciamo. Mi spiega perché. È vero che non è il suo candidato? Non può essere il suo candidato. Come faccio a dirlo adesso? Non so nemmeno chi sono gli altri. Magari si candida Cruciani. Tra Cruciani e Bersani. Chi voto? Bersani tutta la vita, è chiaro. No? È normale. È un gioco della torre facile. Cioè, invece che farmi il gioco della torre, facciamo il gioco della torre. No. Montezemolo come lo vede? In politica, naturalmente. Vediamo anche lì. Siamo ai se. I se e i ma. A Firenze sono il patrimonio dei bischeri. Dice qualcosa, fa proposte. Sì, sembra in procinto di. Vi rendete conto che siamo. Cioè, la politica dovrebbe parlare dei fatti. E noi siamo sembra in procinto di. Ma è troppo vecchio. Per esempio, quanti anni ha Montezemolo? Boh, che ne so. Io non ho mai posto un problema anagrafico. Semplicemente, ho sempre detto che accanto al problema anagrafico ci deve essere. Troppi conflitti di interesse, non so, mi sembra dubbioso su Montezemolo. Non è un problema di dubbi, è un problema che ragionare del sembra in procinto di. Io credo che se i politici, siccome sono iscritto al PD, vorrei che il PD fosse capace di vincere le prossime elezioni senza aspettare i papa neri e o i papi rossi come la Ferrari. Rosso per i papi rossi. Montezemolo papa mi sembra un po' forte, ecco, come espressione. Al di là del colore, come papa non credo nemmeno che lui aspiri, dice. No, aspiri al ma magari poi è più convinto, chi lo sa. Senta, Bersani voleva controllare questa cosa dell'ICI della Chiesa. La Chiesa deve pagare l'ICI. Lei che è uno cattolico. Bersani ha detto una cosa un po' diversa. Ha detto una cosa: controllare gli immobili e vedere quelli che fanno molto le attività. Quelli guardi, che fanno glielo dico da sindaco: attività di culto. Se non ci fossero le associazioni religiose, cattoliche per la stragrande maggioranza, ma non solo cattoliche, il sistema di welfare fiorentino cittadino sarebbe molto meno forte. E dunque? Quindi non c'è dubbio. Per cui, se uno pensa di far pagare l'ICI alla Caritas, è fuori di testa. Se il tema è che c'è la struttura religiosa, o meglio, formalmente religiosa, che fa l'albergo, per me devono pagare, non c'è dubbio. È caso per caso, però. Cioè, non puoi chiedere... Però è giusto fare un controllo di queste cose qui? Diciamo, è giusto fare una distinzione tra le varie realtà. Non si può pensare... Cioè, la Chiesa un po' ci ha marciato, non so, la Chiesa, le istituzioni religiose ci hanno marciato, questo si guardi, può dire. Nella Chiesa c'è di tutto, come si può dire, se penso che gli appartamenti del Vaticano, o dell'istituto, penso sia gli appartamenti del Vaticano, li affittavano, per quello che abbiamo letto sui giornali... Propaganda fidele, Propaganda fidele, mi gira girano le scatole, per cui ma no, al di là di Tremonti e altre vicende, diciamo, che mi pare anche sconti questa sua difficoltà, perché è naturale che in questi due mesi Tremonti è arrivato in ritardo sempre. È arrivato in ritardo, sembrava un Intercity agostano, cioè tutte le volte l'Europa gli diceva fai la manovra, dice, no, non si fa, e dopo due giorni faceva la manovra. Cioè, per capire, erano le previsioni del tempo Tremonti ritardate. Intercity agostano, e mi dispiace, perché poi da italiano a me dispiace, io non sono uno di quelli che parla male degli altri, quindi sono uno che aspira al bene del paese. Detto questo, dico, se penso a alcune istituzioni, diciamo della gerarchia ecclesiastica vaticana, che credo lucrano, che altro quello. Che ICI dovrebbero pagare, altro che ICI. Se penso poi però alla stragrande maggioranza dei dunque delle realtà religiose controllare fiorentine, credo che, facciano un servizio strepitoso, molto bello. È giusto controllare e verificare quali siano le istituzioni religiose che fanno business e quelle che invece fanno opera ci di sono carità, tante di quelle suorine che tengono in piedi interi quartieri nelle nostre zone, per cui chi immaginasse di fare una guerra ideologica su questo, secondo me commetterebbe un gravissimo errore. Però questo Bersani l'ha detto, sì no, cioè no, se lei vuole farmi litigare su Bersani, no, io non tutti voglio gli argomenti che ha, perché no, questa no. Mi sembra quella meno, ma non vuole più litigare con Bersani, ma poi. Io sono uno per la pace universale. Sì. Non litigo, io vorrei che con i suoi dipendenti, come è andato dopo quella sua uscita là, con i suoi dipendenti, cos'è che aveva detto sui dipendenti, sui dipendenti lo dico un po', io ho detto, siccome a un'intervista peraltro a un quotidiano sportivo che mi parlava di Guardiola, e capisce che quando io parlo di Guardiola già provo un certo sentimento di non so che. Non so che, ora non vorrei, vabbè, insomma, no, capite? Non equivochiamo, non si preoccupi. No, il problema è che ho detto che alla domanda di un giornalista che sono che mi chiedeva, un po' fannulloni, no, vabbè, fannulloni lo dice lei e qualche altro, e se l'assume la responsabilità, se l'assume tutte le responsabilità. Vabbè, ho detto una cosa molto semplice, qual è la cosa che più ti fa arrabbiare dei dipendenti a Firenze? Ho detto la cosa che alle 2 del pomeriggio ci sono 30 persone su 5.000 dipendenti del Comune di Firenze che dalle ore 14 sono in fila, anzi da 20 minuti prima delle 14, per timbrare il cartellino all'uscita. Alla Fantozzi un po'. E il giornalista dice, come quel film di Fantozzi? E io ho fatto peggio, perché nel film di Fantozzi è un film, è come tale una storia. Da noi è vero. Ma per quei 20 ci rimettono tutti gli altri, cioè ci rimettono la faccia tutti quei dipendenti pubblici che fanno bene il loro lavoro. Allora, siccome bisogna avere il coraggio di dire che c'è gente che fa bene il proprio lavoro e c'è gente che fa il furbo, a me chi mi sta davanti ai turisti a timbrare 20 minuti prima, aspettare, mi fa arrabbiare. Ho fatto una riunione con i sindacati dopo questa uscita che ha avuto grande eco e abbiamo deciso... Abbiamo tolto quell'apparecchio al cortile e ciascuno timbra al piano adesso. Così non si vedono più quelle file. Non è che non si vedono, problema, che non la gente esce, allora... Non era un problema estetico. Se lei sta al terzo piano, scende giù prima, fa tutto il cortile, arriva e si mette in fila davanti ai turisti, non è un problema estetico, è un problema etico. Certo. Perché lei non soltanto sta rubando 10 minuti, ma non è un problema, perché poi uno può andare via anche 5 minuti prima e li recupera il giorno dopo. È un problema logico, è un problema che non puoi dare l'impressione di considerare il lavoro pubblico come una gabbia. C'è gente che non ha il lavoro, cassi integrati, ragazzi che stanno fuori, uno che ha un servizio pubblico, che fa il dipendente pubblico, deve avere la Costituzione parla di disciplina e di onore. Deve svolgere. Brunetta le piace. Cioè, Brunetta in fondo queste cose ha detto, no? Brunetta la pubblica amministrazione più vicina al cittadino. Brunetta ha fatto 3 anni di slogan. Non ha risolto un problema. Ma non di le piace neanche annunciato. Un po'. Non le piace. Sinceramente no. Mi dà noia quando offendono Brunetta per l'altezza. Cioè l'ironia ultimamente Bossi ha il nano, quel nano no veneziano. Ma ci sono da tutte le parti. Bossi sta esagerando ultimamente. Bossi ha il nano veneziano stronzo, anche D'Alema però, se non ricordo male, ma anche D'Alema. Io l'idea con tutte le cose che Brunetta ha fatto, ci sono argomenti per criticarlo che vanno dall'A alla Z, ma nano l'idea di andare a insultare una persona perché non è alta, perché ha dei problemi di statura, mi sembra un'idea talmente vile e stupida che mi fa arrabbiare. Cioè, una cosa è una battuta da bar, uno scherzo, un sorriso, il diretto interessato che magari ci ride sopra. Mi fa arrabbiare che si debba prendere in giro Brunetta su questo. Che mi dà noia quando viene preso in giro su questo, dico che Brunetta è stato un ministro che ha enunciato dei problemi e non ne ha risolto uno. Naturalmente qua Brunetta potrebbe dire non è vero, abbiamo eccetera, fatto eccetera, il numero 470.000. Vabbè, senta, come chiudiamo sulla Fiorentina? Ma c'è un ridimensionamento? No. È un po' deluso da questa... Mi dica la verità. No, io penso così, che Della Valle abbia ragione nell'immaginare un tipo di società sportiva. Cioè quando Della Valle dice, signori, così com'è non si va avanti, dice una cosa sacrosanta. E questo i tifosi devono capire... Citare i tifosi avanti, qui parlo per tutti. È possibile che quando eravamo piccolini noi... Il calcio italiano era virgolette, il più bello del mondo, tutti i grandi campioni venivano da noi, era il campionato più significativo. Oggi io ho i miei figli che, complice Sky, per carità di Dio, ma guardano il campionato spagnolo, e allora? Piuttosto che il campionato inglese. E questo, facciamoci una riflessione su questo, no, perché d'accordo. La gente, allora, questo è il però tema complessivo. I tifosi che protestano sul... perché non ci sono. I tifosi che protestano a Firenze si protesta sempre dopo due partite perse e si è sempre entusiasti al settimo cielo. Lei sulla protesta dei tifosi è dalla parte di Della Valle. Ma non ci sono 30 persone che hanno fatto due striscioni anche discutibili, perché anche in alcuni casi offensivi. Non c'è una protesta, chiaro. La Fiorentina ha bisogno di fare un salto di qualità, perché per 4 anni è andata di fatto in Champions, 2 anni sono stati tolti con un processo, quello di Calciopoli, molto discutibile. Lei dalla parte di Della Valle su questo? No? Ma su questo ha totalmente ragione Della Valle. Contro Moratti, eh? Dice ma non che contro deve Moratti, bisogna dire la verità, cioè non si capisce perché dai brogliacci alcune intercettazioni sono state tolte. Quelle sull'Inter, per esempio. Ma io non discuto quelle... complotto. Anche complotto. Renzi dice a Moratti devi spiegare quelle telefonate, oltre a Della Valle. Questo è il modo vostro. Io ho mai detto una cosa del genere. Io non dico rubati, a Moratti devi spiegare. Rubati. Ragazzi, non cercate di buttarla in rissa alle 20:29 che mancano 10 secondi alla fine della trasmissione. Quello lì è bello. È inutile cercare di rompere tutto. Io sto dicendo semplicemente che la Fiorentina è stata messa nel mezzo in modo non corretto dal mio punto di vista. Detto questo, da tifoso della Fiorentina, da sindaco, esprimo una viva e vibrante preoccupazione, che è la seguente, che il calcio italiano muoia dietro a dei personaggi discutibili. Ecco, primo dei personaggi discutibili, chi sarebbe? Alle 20:29 lo posso dire, la prossima trasmissione. Chi è il personaggio discutibile? Beh, ci sono dei presidenti delle scuole di calcio che sono semplicemente inguardabili, ma io purtroppo vedo che sta scadendo il tempo a vostra disposizione. Però è bello quando dici una viva e vibrante preoccupazione. Ci sta facendo il pippotto sul calcio italiano che non funziona, presidente, eccetera. Il pippotto del calcio italiano, che sarebbe una cosa seria, ma poi non volete parlare di contenuti, cercate lo slogan facile. Che slogan facile. Grazie al sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che è molto dimagrito perché sta preparando la maratona di Firenze, dove spera di fare meno di 4 ore o 4 ore e 10. Anche lei, Cruciani, andrà alla maratona di Firenze? Forse, può darsi se sono in forma. Pubblicità. La Zanzara. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Eccoci qui, la Zanzara, ultima parte con gli ascoltatori, dopo il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Rush finale della Zanzara. Rosanna, provincia di Imperia, buonasera, 800 24 00 24, dica. Buonasera, Cruciani. Senta, io volevo intervenire in generale, no? Sì. Volevo chiedere a Matteo Renzi se per capire Marchionne ci volevano 2 anni. Io a Marchionne, ma avesse fatto un ricatto del genere, gli avrei messo le valigie in mano insieme ad Elka e il divieto di entrare in Italia. Di rimanere benissimo in Canada e in Svizzera, appunto. Guardi, che ho ancora il busto. Ascolti, Cruciani, glielo dice una che è un'operaia da 43 anni, agricola, non di quelli lì che non fanno niente dalla mattina alla sera, agricola. E siccome nessuno ha mai difeso niente in questo benedetto paese, per non dire di peggio, il mio pensiero è questo, primo. Punto secondo, per quanto riguarda la tassa di solidarietà, io ho un reddito di 15.000 euro annui e pago da 3 anni la tassa di solidarietà a 300 euro e quest'anno 650 euro di IRPEF. Quindi a me, quelli che ne prendono 90 e 150, cioè non c'è neanche paragone. Non sono però invidiosa, scusi, cosa c'entra? Signora, ho capito, signora Rosanna, lei paga quello che deve pagare. Cioè un contributo, diciamo, dal punto di vista delle tasse minimo. Dopodiché non è che questo significa che quelli che hanno 90.000 o 150 magari con figli sono delle persone ricche che devono pagare. Io ho un figlio a carico e il marito a carico, si figuri lei, Cruciani. No, Rosanna, va benissimo tutto. Sto dicendo che io non voglio lamentarmi, è che purtroppo in questo paese ci prendono noi ai politici. Comunque lo hanno cancellato questo. Lo hanno cancellato. Ci abbiamo permesso di farci fare. Tranne che per i politici. Cruciani, dalle stragi di questo paese. Sulle stragi, stragi. E non se ne mi era più. Partita bene ora sulle stragi. No, no, io non so, guardi, mi dispiace veramente perché oltretutto io ci tengo a questo paese. Io sono nata e morirò nello stesso posto in cui allora, sono nata. Voglio dire questo, che non se ne può più di sta politica. Va bene, Rosanna, grazie. Cristian da Taranto, buonasera. Pronto, Christian, buonasera. Dica. Buonasera, senta, volevo fare una considerazione essenzialmente sull'intervista fatta a Borghezio la settimana scorsa. Ancora. Purtroppo voglio dire che... Sì, mi sente? Prego. Sì, dica. Purtroppo voglio dire che sono davvero schifato di essere rappresentato da una persona del genere, felice, felice della crisi in Italia, felice che quest'anno ci sono stati più 88.000 disoccupati. Una persona che non sa questo quello che dice... Questo non l'ha detto, No, allora, se non l'ha detto, però lui era... Ha detto, più l'Italia, più l'Italia è in difficoltà, più... Più si avvicina all'indipendenza della Padania, questa è la sostanza, più io godo, capito. Diciamo, no? Ho capito, che cosa vuol dire? Che una persona che gode di questo è una persona... Ma non è che si augura la disoccupazione, su, Cristian, per carità, poi non sono qui a fare il difensore di Borghezio, sto dicendo allora, semplicemente cosa, che ha fatto un cosa. Ragionamento alla Borghezio, più va male l'Italia... E più ci guadagna la Padania, Cristian. Questo è il suo ragionamento folle, magari. O comunque non ha fatto un ragionamento alla Borghezio, ha fatto un ragionamento da una persona fuori di testa. Perché non si può dire, non si può dire se ci perde l'Italia, ci guadagna l'Italia. Che cosa vabbè, ho capito, ma che allora, si dica fuori di testa? Dire... Ha fatto un ragionamento alla Borghezio dicendo più va male l'Italia, più si avvicina alla separazione del nord sì, dal sud. Allora, questo secondo lui. Punto, a questo punto, così come è stato. Cacciato o messo da parte purtroppo per quelle dichiarazioni sul killer norvegese, non io mi pare sia avrei sperato che altrettanto qualcuno avesse preso provvedimenti su una roba del genere. E poi un'ultima cosa, sì, però detto... parliamo di Borghezio, non di Giscard d'Estaing, voglio dire, va tutto contestualizzato, capito, non è François Mitterrand. Ho capito, ma Borghezio purtroppo ricopre dei ruoli istituzionali. Ma che ruolo istituzionale? Europarlamentare europeo anche piuttosto isolato in una Lega in questo momento, dopo quello che è successo? Ho capito, ma nonostante tutto è sempre lì, è sempre lì. E che bisogna fare? Bombardare case di Borghezio, bombardare il Parlamento europeo, non lo so. No, avrei sperato, onestamente, avrei sperato che dopo l'uscita sul killer norvegese, dopo queste altre ulteriori dichiarazioni, fosse stato messo al palo, messo proprio fuori dal partito. Impiccato, fuori aspettarsi una cosa del genere da un partito come la Lega, dove tutti la pensano più o meno nello stesso modo, è un bel... sarebbe davvero chiedere troppo. Comunque va bene, Cristian, grazie. Carmela da Latina, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Signora Carmela, come sta? Scusi, ma io vorrevo intervenire sulla manovra, sulle modifiche che hanno fatto oggi. Dica. Allora, il contributo di solidarietà l'hanno tolto. Vabbè. Questo qui bastava, andava bene la seconda ondata, cioè oltre i 200.000, quindi magari... Vabbè, ma adesso, Carmela, l'hanno tolto, io sono contento che l'abbiano tolto, sono felicissimo che l'abbiano tolto, non perché rientravo, anzi sì, rientravo nel contributo di solidarietà. Sono contento anche per quello, era una rapina secondo me, non trattavasi no, magari, ma no, di dicevo, rapina. Che potevano diminuire la percentuale, una piccola parte, non così che andavano 2 milioni di erano troppi, no? Se pensiamo ai calciatori. Altro, il problema è un altro. Il problema è la follia è che prima uno lo propone, poi dopo tre settimane lo cancella. Esatto. Il solito pasticcio. Tutto, poi le pensioni che hanno aggiunto invece, mi sembra, hanno aggiunto che andranno in pensione le donne a 65 anni. Per me va perfettamente bene, come dice lei, anche domani. Perché ormai in Europa è così, quindi è inutile che stiamo a rigirare, no? Ma non mi pare che ci sia questo tipo di provvedimento. Ho sentito che pare che non si potranno ricongiungere gli anni dell'università e del militare, che non resta dell'università a livello di contribuzione, bensì per andare in pensione. Non si potranno ricongiungere gli anni dell'università e del militare, che poi è uno, insomma, certo. Uno e mezzo a seconda di quello che uno fa. Non si parla delle donne, delle pensioni delle donne, per cui insomma. Anche lì c'è stato un compromesso con la Lega. Grazie. Pietro da Pescara, buonasera. Buonasera, sì. Io chiamavo per fare questo abbinamento tra la politica e il calcio. Cioè? Ci sono questi politici, questi della legge porcata, che ogni tanto trovano un argomento sul quale cercare di fare un articolo su se stessi, no? Cercano di diventare un fatto di cronaca. Ecco, quindi questi politici, noi non riusciremo mai a liberarsi, perché comunque c'è una quota di italiani che sempre gli darà il voto, che sempre... Io non ho capito niente, scusi. Pietro, di cosa, di chi sta parlando? Soggetto, verbo, complemento oggetto. Di chi sta parlando? Allora, io sto parlando di Calderoli, per fare un esempio. No, lui ha detto che la legge che aveva fatto era una legge porcata. Lei prima questo criticato... appartiene ormai alla preistoria. Siamo nel 2005 quando l'ha detto, sono passati 6 anni. Insomma, sì, vogliamo riparare di questa sempre cosa. Sempre la legge porcata rimane. Sì, ma vogliamo parlare ancora di questa cosa. È vero che è preistoria, però ogni tanto questo argomento viene ritirato fuori. Vabbè, ho capito. Lei ci vuole parlare stasera di questo qua, di Calderoli, della legge porcata? No. Io voglio parlare del fatto che si fa. La politica è fatta di slogan che insultano il cittadino, come quello per esempio di dire che i giocatori, dal momento che si sono lamentati della norma che prevedeva una tassazione, dovevano avere una tassazione doppia. Queste sono delle stupidaggini, perché i giocatori possono lamentarsi, sono dei cittadini come tutti gli altri. E i politici invece dovrebbero avere senso di responsabilità e non pensare di avere degli atteggiamenti punitivi verso chi si lamenta giustamente di una tassazione indebita. Va bene, grazie, non ho capito molto, ma va bene lo stesso. No, Dario da Firenze, buonasera. Sì, buonasera, mi sentite? Pronto? Sì, dica. Sì, posso parlare dopo 40 minuti, un minuto senza essere interrotto? Sì, preventivo. Prego. Allora, prima cosa, io sono il signore di Taranto che parlava a proposito dei cinesi, ha perfettamente ragione, prima cosa. Seconda cosa, Taranto, quello abbiamo mandato l'ambulanza. Se mi interrompo, ha ragione però, su cosa? Non si è capito niente, ma comunque... Sui cinesi, ha perfettamente ragione. Ci stanno, prima che cosa. Ha detto che ci sono i cinesi che portavano via i soldi. Con le macchine. Vabbè. Se mi interrompete però... Allora, seconda cosa, io sono di Firenze e lavoro nei compressori di Sesto e di Prato. A Prato ci sono su 170.000 abitanti 50.000 cinesi, 15.000 regolari, 35.000 clandestini, dati appurati, ok, dalla questura, dai carabinieri. Evasione soltanto di imponibile all'anno, in un anno a Prato, 4 miliardi di euro, ok? Quindi bisogna essere informati, bisogna parlare. Stime della Guardia di Finanza al ribasso. E allora? Bene, allora la camicia di forza non ci vuole al signore, ci vuole a voi. Prima, seconda noi cosa. L'abbiamo mandato. Terza cosa, mi fate finire, il minuto sta per scadere, se mi interrompete. Il signor Renzi, insieme al sindaco di Sesto Fiorentino, dovrebbe occuparsi sempre dei cinesi, dove c'è pieno di laboratori clandestini, fotocopia di Prato, va bene, dove lavorano pelletteria e in concorrenza sleale, senza alcuna regola. Si occupasse di quello anziché di Lampedusa. Quarta cosa, è finito. Eliminiamo l'evasione fiscale, eliminiamo il contante, ognuno c'ha il suo chip con la carta bancomat e il suo codice. Il contante non è più utilizzabile. Eliminate l'evasione fiscale. Addirittura. Grazie. Sì, no, certamente rintracciare i pagamenti è un modo per abolire il contante. Comunque. Però insomma è molto difficile fare una tracciabilità totale, addirittura per oltre, come diceva l'ascoltatore, anche per i pagamenti minimi. Anna da Napoli, buonasera signora Anna. Buonasera. Dica. Io volevo interloquire col sindaco di Firenze, ma è andato via. Sì, però posso interloquire con lei, Crociani. Perché non gli ho chiesto delle dimissioni di Bersani per coerenza con quello che è stato detto per chi in altri partiti si è trovato nella stessa situazione? Cioè? E cioè Tremonti con il suo collaboratore Berlusconi. Ma lei dice Pionati, lei dice Pionati. Penati. Sì, Penati. Prego? Penati Bersani. Ce l'avevo scritto qua, poi siamo scivolati su altri argomenti. No, effettivamente la vicenda Penati. Ma guardi che questa era una domanda per me importantissima, perché no, ma lei ha ragione, per carità. Il problema è che oggi ha rilasciato diverse interviste su questo, su Penati, sulla prescrizione di Penati. Il caso milanese è completamente diverso dal caso, cioè non è che Milanese sta a Tremonti come Penati. Beh, Penati è stato a lungo collaboratore, come Penati sta a Bersani, collaboratore di... Sono due storie completamente diverse. Ma anche perché indubbiamente, però, anche perché Bersani non ha nessun ruolo di governo, mentre Tremonti ha un ruolo di governo e c'era il suo primo e principale collaboratore indagato per reati gravissimi, il sospetto sulle nomine e quant'altro. Quindi sono due cose diverse. Ma sai, io non faccio tanta differenza sul gravissimo o grave. Chi sbaglia in politica, Benedetto, se ne deve andare. Non è possibile che Bersani non sapesse tutto quello che combinava questo signor Penati. Guardi che Napoli, Bassolino, ha rovinato il PD e noi abbiamo votato il sindaco di Magistris. Per forza di cose non c'era altro. Adesso ne siamo anche contenti perché sta facendo qualcosa e speriamo che vada avanti così. Ma è autodistruzione. Ho capito, signor Lanni. Grazie, traffico. La Zanzara. Eccoci qui, Pietro da Bari, 800 24 00 24. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani, buonasera Lorenzo. No, io, buonasera. Siccome, vabbè, quando ho chiamato, parlavate, lei ha fatto la domanda a Montezemolo a Renzi, su Montezemolo a Renzi. Io volevo intervenire su questo, volevo soltanto dire che, insomma, gli imprenditori, io sono stufo di imprenditori in politica, io non ce la faccio più. Io penso che dovrebbero fare il loro mestiere, della valle, questi qua, pensare, stanno facendo la linea ferroviaria, facessero la linea ferroviaria, dessero lavoro a tante persone, ma non si interessassero più, perché ne abbiamo tanti di esempi di imprenditori che entrano in politica e poi sappiamo come va a finire, quindi vorrei consigliare agli imprenditori di stare al posto proprio, basta, non ne abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di gente che insomma si presume che dovrebbero essere persone che non hanno interessi particolari, una volta arrivati lì hanno risolto i loro problemi. Ma lei dice Montezemolo ha troppi conflitti di interesse. Per carità, ma non se ne può più, basta, cioè lasciassero posto a chi vuole fare la politica per passione e che forse dico, potrebbe avere interesse di fare qualcosa sul serio, pazzo, capito? Un pazzo scatenato, uno che è arrivato lì, ha risolto i problemi di stipendio e che invece si arriva là e si mette insieme a qualcun altro a fare qualcosa per il paese, perché non se ne può più di questa gente, cioè, capito? Che arriva lì e poi... Ho capito, grazie, grazie. Andiamo a Bercelli, Rodolfo, buonasera. Buonasera. Signor Rodolfo, la mia è una proposta di considerazione comune. Partendo dal concetto che è condivisibilissimo, che ognuno ha il diritto di dire quello che pensa, ed è giusto che i politici esprimano il loro parere, però personaggi politici, per esempio come Borghezio e come Scilipoti, che voi ospitate frequentemente, non trovate che dare a loro visibilità significhi piuttosto che far capire alle persone che vi ascoltano che i loro ragionamenti politici sono sbagliati e sono comunque contraddittori? Non trovate che sia una forma di pubblicità che loro si fanno? Se noi vogliamo veramente che queste persone non siano più elette, non conviene farli passare sotto silenzio. È più forte per voi lo stimolo di fare lo scoop giornalistico, di far dire a Borghezio quello che dice o di far parlare a Scilipoti dell'agopuntura, che sappiamo tutti che ha un valore relativo nell'ambito della medicina tradizionale. Aia, se mi tocca l'agopuntura qui... Esporli in continuazione. Quello non chiama... significa... invitare un certo tipo di elettori a rivotarli successivamente, così come si votano i tronisti nelle trasmissioni televisive? Bah, assolutamente no. Davide da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Io ho acceso la radio e stavo già parlando a Renzi, mi sarebbe piaciuto parlare con lui perché credo che avrà una carriera politica sfolgorante, un futuro radioso, perché è un maghetto, cioè uno che dice tutte le cose per benino, tutte le cose giuste che vanno dette, poi però milita nel PD. Io non chiamo da Milano, chiamo da Sesto San Giovanni, conosco bene la realtà del PD di Sesto San Giovanni, quindi penso gli abbiate chiesto di Filippo Penati, del feudo, del regno, dell'impero che ha instaurato qui a Sesto San Giovanni. L'ho sentito parlare della prima sfottere Bossi, o comunque fare del sarcasmo sul rivoluzionario Bossi, e poi parlare dell'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari, dimenticando che Bossi, insieme al suo partito e alla sua coalizione, aveva fatto passare una riforma costituzionale della cosiddetta devolution, che riduceva sostanzialmente... Poi dopo bocciata dal referendum... Quella era una cosa, Davide, non c'era solamente la riduzione... L'interferenza di fondo... Non c'era solamente la riduzione dei parlamentari in quella riforma. Questa balla colossale, caro Davide, questa balla colossale. Mi perdoni lei, questa balla colossale, ripeto ancora, che sta raccontando. Questa simpatica balla colossale. Davide, non c'era solamente la riduzione dei parlamentari, c'erano tante cose quando si... Certo. E allora che vuol dire? L'introduzione del Senato del bicameralismo imperfetto. Vabbè, a lei piaceva quella riforma, fatto sta che quella riforma non è passata, appunto, e basta. Ma certo, non è passata. Cosa vuole che dica? È stata affossata dal partito in cui milita Renzi. Ma certo, anche, ho capito, ma evidentemente Renzi pensa che c'erano delle cose, le persone del Partito Democratico pensano che c'erano delle cose negative. Qual è il problema? Cioè, non è che quella riforma era positiva, allora, per definizione. Le posizioni, secondo me, anziché generalizzare, perché spesso le persone dimenticano. Parlava e faceva del sarcasmo su Marchionne, che ci insegna a stare al mondo, pur essendo cittadino svizzero, dimenticando che c'è un imprenditore svizzero proprietario del principale gruppo editoriale sostenitore del partito di Renzi, cioè l'Espresso, Repubblica L'Espresso, che è altrettanto svizzero come Marchionne, però non ho mai visto Renzi scagliarsi contro questo imprenditore che è il principale sostenitore del partito in cui milita Renzi. Quindi io sono convinto che Renzi avrà un futuro radioso davanti a sé, perché veramente è molto bravo. Renzi milita nello stesso partito di Penati, di Bassolino, di Rosorso Iervolino, e però fa dei ragionamenti così. Va bene, grazie Davide. Andiamo a Mario, provincia di Padova. Buonasera, anzi non c'è più Eugenio da Milano, no? Prima c'è Federico da Milano, poi Eugenio. Federico, dica. Sì, pronto, buonasera. Senta, io prima ho sentito l'intervento della parlamentare, la quale diceva che era sbagliato generalizzare, perché ci sono anche, sottolineo anche, dei parlamentari che ci mettono dell'impegno. Ecco, per me un discorso del genere è assurdo. Nel senso, come anche dovrebbe essere l'eccezione il fatto che ci siano dei parlamentari che non si impegnano, invece qui in sembra teoria dovrebbe che essere sia... l'eccezione, va bene. Qui sembra sempre che, e fin quando penso che continueremo ad accettare dei discorsi così assurdi da parte di quel ceto. Ma come in tutti i luoghi di lavoro, ci sono quelli che lavorano e ci sono i fannulloni. Ma no, ma non si può dire anche quelli, cavolo, sono dei parlamentari che dovrebbero rappresentare, dovrebbe essere, come dire, l'elite, quelli che si impegnano, quelli... Ma non è che il Parlamento è il luogo perfetto dove ci sono soltanto i migliori. Nel Parlamento è lo specchio del paese, quindi ci sono i fannulloni, ci sono gli operai, ci sono quelli che sparano la cazzata grossa, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi. È lo spaccato della società il Parlamento, non è che siamo noi che li votiamo, quindi perché dovrebbero essere migliori di come siamo noi? O diversi, è un'idea sbagliata. Perché ormai per me è passato come luogo comune il suo modo di ragionare, per me bisognerebbe cambiare proprio il modo di pensare, cioè dovremmo appunto essere noi, non sto dicendo... Che non sia così, però dovremmo essere noi finalmente a mandare in Parlamento qualcuno che per meritocrazia, per magari non lo so, sono un Don Chisciotte, non lo so. Comunque ecco, sono rimasto basito dal fatto che è passato questo messaggio che ci siano anche dei parlamentari che ci mettono dell'impegno. Tutto qua. Bene, grazie. Andiamo avanti, ultimi secondi della trasmissione con Andrea da Roma. Andrea, dica. Buonasera, saluto a lei e tutti quanti gli ascoltatori. Senta, io in buona sostanza sì, sono rimasto colpito dalle parole dell'ultimo ascoltatore che in buona sostanza ha puntato il dito su una cosa che mi trovo assolutamente d'accordo. Pur tuttavia, riferendomi a due interventi fa, devo dire che da elettore del centrodestra trovo nel sindaco di Firenze insomma delle buone aperture per un futuro dialogo. Poi insomma voglio dire, quando si arriva a certi livelli è logico che comunque il compromesso va da sé, insomma sono dei quadri che insomma si rincorrono continuamente. E poi volevo appunto sfruttare gli ultimi secondi per una tiratina d'orecchie al suo braccio destro Parenzo, che trova una persona molto brillante, simpatico e tutto quanto. Io l'abbraccio. Tuttavia, noto che troppe volte si accanisce comunque, ecco per esempio ieri quando è stato, l'altro giorno con il Mago Telma, comunque che è un poveraccio, e vedo che lui praticamente rimane piccato. Questa cosa qui... No, veramente, no, guardi, io ci rido sopra, adesso io non è che mi posso piccare, lei mi considererà una persona minimamente intelligente. Qualcuno può piccarsi delle dichiarazioni del signor Telma? Sì, adesso magari a freddo sì, però lì per lì... Ero divertito, comunque va bene, insomma è giusto. Sì, perché talvolta io, che vi seguo sempre tutte le sere con passione, noto che più il profilo dell'interlocutore è basso e più lei si incazza. Adesso perdonatemi questo termine, sì. Però questo è tante volte un aspetto... Sì, perché non sopporto la mediocrità, non sopporto la mediocrità. Sì, però quando più l'interlocutore è mediocre, più mi fa ribollire. Vado ai matti, come dicono. Però c'è un vecchio detto greco che dice: chi... Posso? Sì. Posso parlare? Chi? Sì. Sì, vecchio detto che diceva? Vecchio detto greco che diceva: chi vuole essere libero di dire quello che vuole deve essere altrettanto libero di sentirsi dire ciò che non gli sta bene. Quindi dal momento che lei comunque è in prima linea, tante volte insomma potrei utilizzare il termine che si faccia un po' più intelligente, ma non posso certo dirglielo. Però un abbraccio fortissimo. Grazie, questo, no? Grazie, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani, sempre qui da Pedro, 18:30, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni, bro, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.